Siamo qui dalle officine Babilonia di Cosenza e stiamo davvero per iniziare. Sapete tutti che da Cosenza sfortunatamente la precisione non è mai una nostra caratteristica. Ad ogni modo, transizione di fase è qui e non si arresta. Per questa ennesima diretta da Cosenza ormai ci abbiamo davvero preso abitudine, e quindi ogni qualvolta avvertiamo la presenza di qualche significativa iniziativa ci fiondiamo immediatamente per le nostre fantastiche dirette. Vi ricordo che potete anche seguirci su Facebook come Transizione di Fase o anche su Twitter, e lì potete avere tutte le informazioni. Fra pochi minuti iniziamo, preghiamo la fra pochi minuti iniziamo. Che ha il microfono di fare silenzio, prego. Grazie. Sfortunatamente i problemi tecnici ci attanagliano di continuo, ma siamo sempre qui. Siamo qui dunque da Cosenza per questa diretta che si svolge alle officine Babilone di Cosenza, uno spazio, ve lo ricordiamo, occupato della città, uno dei tanti fortunatamente spazi occupati di Cosenza. E siamo dunque qui per questo incontro Crisi e guerra ai poveri a Cosenza, la macchina truccata, economia e finanza ai tempi della crisi. Per saperne di più e imparare a farne a meno, l'intervento è quello di Francesco Carlizza, economista e anarchico romano, autore dell'opuscolo Manovra finanziaria e crisi, curato dal gruppo anarchico Cafiero di Roma. Vi ricordo che questa iniziativa, che si svolge all'interno delle officine Babilonia di Cosenza, è curata dal gruppo ecosociale Malatesta di Cosenza. A seguire, dunque, se siete a Cosenza e nei dintorni, potete venire qui, potete precipitarvi qui alle officine Babilonia. Infatti vi terremo una fantastica cena sociale dove saranno presenti anche finalmente dei piatti vegetariani e vegani, perché per chi come me non ce la fa più a vedere broccoli, rapa e salsiccia, finalmente qualcosa di diverso. A seguire poi un concerto con musica cantautoriale che Transizione di Fase continuerà a seguire per voi. Quindi continuate ad ascoltare Transizione di Fase, e se siete a Cosenza e nei dintorni passate, precipitatevi qui a Cosenza. E adesso vediamo che la porta delle officine, la porta bianca delle officine, viene chiusa dal nostro amico Orestaccio, e siamo veramente, ci siamo quasi, perché come sapete la nostra organizzazione è sempre quella che è. A ogni modo, eccoci qui, ci siamo. Ora basta con la mia voce, finalmente ascolterete qualche altra persona che parla al mio posto, che dirà sicuramente cose molto più interessanti di me. Quindi buon ascolto su Transizione di Fase. Allora, buonasera a tutti e a tutte. Potete cominciare, insomma, a prendere posto. Finalmente ci siamo. Era da settembre-ottobre, quando uscì l'opuscolo curato dal gruppo Cafiero di Roma sulla crisi e guerra ai poveri, in cui facevamo qua a Cosenza delle passeggiate per Corso Marzini, che non erano passeggiate anonime di struscio, ma erano passeggiate di gli indegnati di Cosenza, in cui andavamo a dire, a manifestare le nostre idee circa l'origine della crisi, i suoi sviluppi, i suoi significati pesanti sulla vita quotidiana di tutti noi, sull'onda anche di quelli che erano gli indignati dalla Spagna, che prendevano finalmente iniziativa e voce nella vecchia Europa. Iniziativa e voce che seguiva quella che era stata nella primavera precedente la rivolta nei paesi del Maghreb, in cui i giovani, sull'onda anche emotiva di fatti specifici, lo ricordiamo, il suicidio di un giovane tunisino dopo l'ennesima vessazione della polizia, e dall'epoca poi, insomma, quella rivolta che infiammò il Maghreb cambiò finalmente la fisionomia di quei paesi, politica, retta e appoggiata, lo ricordiamo, dalle democrazie occidentali. Finalmente poi quell'onda passò il Mediterraneo, arrivò in Spagna, arrivò in Francia, in Inghilterra, fino anche poi ad arrivare in Italia con il 15 ottobre, che ricordiamo, magari poi se ne può anche fare qualche discussione, qualche passaggio. Nel momento in cui sto a fare queste passeggiate per Corso Mazzini, arrivò questo opuscolo del gruppo Cafiero di Roma che ci diede qualche spunto in più sulla famosa responsabilità delle banche, che, di questo oligopolio finanziario che oramai ha la pretesa di strangolare, di egemonizzare quelle che sono la vita quotidiana e le politiche dei singoli paesi. Che per quanto ci riguarda ormai, cioè per noi lo sappiamo, i paesi sono solo sempre stati dei confini per quanto, sulle cartine geografiche, ma non hanno mai riguardato la vita delle persone. I miei genitori, come anche questi e molti altri, sono andati a cercare la fortuna e anche hanno costruito poi casa nel nostro paese con i soldi del lavoro salariato all'estero, così come oggi stanno facendo quei miei stessi migranti, quei stessi ragazzi che hanno partecipato magari alle rivolte del Maghreb, che magari stanno qua nelle nostre aree occupate. E poi tutto ciò si intreccia anche con il lavoro del gruppo ecosociale Malatesta di Cosenza, che è attivo sul territorio soprattutto per quanto riguarda le tematiche ambientali, la denuncia dello scempio per quanto riguarda le mega infrastrutture, no? Il ponte, il rigassificatore di Gioia Tauro, la centrale sul Mercure, la centrale a carbone di Rossano, la politica sui rifiuti. Tutte quelle politiche che vogliono costringerci ad una visione unica, che è quello che le banche dettano legge, il prodotto interno lordo è il nostro unico orizzonte a cui sacrificare tutte le nostre vite. Per cui ci tenevamo tantissimo a far parlare qui fra noi, insomma, a confrontarci e discutere sulle possibili uscite dalla crisi con Francesco, detto Frick, che è l'autore di questo saggio sulla crisi, ma anche attore di tante iniziative anarchiche e libertarie in Italia e non solo. Per cui niente, mo passo la parola a Francesco e comunque vorrei fare un saluto alle migliaia di persone che oggi hanno reagito all'onda repressiva per quanto riguarda gli arresti del Notav in Val di Susa, che a migliaia hanno sfilato tranquillamente dicendo basta alle politiche repressive, insomma, del governo. Abbiamo sentito Manganelli, insomma, con appresso a lui D'Alema sulle pericolosità dell'infiltrazione degli anarco-insurrezionalisti, in realtà agitando sempre lo spettro, insomma, di questo anarchico brutto e cattivo pronto a menare le mani, quando invece in realtà è altro. Chi mena le mani nelle piazze e nelle strade ormai è soltanto la polizia, gli ACAB, in Italia come anche nel resto del mondo, ecco. E noi invece portiamo nel cuore, ma anche nella pratica quotidiana di tutti i giorni, un'altra idea di libertà, un'altra idea di muoverci nella società. Con questo volevo salutare Francesco e cedergli il microfono. Ciao a tutti, ciao anche ai compagni che ci ascoltano in streaming, ricordiamocelo, visto che siamo in streaming. Diciamo che cominciamo col dire che la crisi non c'è per tutti, non c'è sicuramente per Manganelli, che abbiamo scoperto in questi giorni essere il funzionario statale più pagato, cioè evidentemente Genova paga, evidentemente il massacro fatto alle persone a Genova frutta 600.000 euro all'anno. Evidentemente la crisi non è per tutti, l'economia è un gioco a somma zero, come al poker. Al poker, se ti siedi al tavolo, qualcuno perde, qualcuno vince. L'economia funziona così, qualcuno perde, qualcuno vince, l'economia è un gioco a somma zero. Quando si parla di crisi, si parla di qualcuno che ci rimette e di qualcuno che ci guadagna. Il problema è i ragionamenti che stiamo sviluppando in questo periodo sono per spiegare un po', visto che nessuno lo dice, chi ci rimette e chi ci guadagna. È quello che cerchiamo di fare, per farlo in maniera, parlare di economia è anche una cosa un po' pallosa, tanto per essere chiari. Ci siamo inventati questa cosa della presentazione con gli altri compagni che mi aiutano, mi accompagnano nel gruppo, ma è un'esperienza collettiva che stiamo vivendo, per cercare di raccontare alcune cose che non vengono dette necessariamente. L'economia è sempre un argomento un po' ostico, cercano di farlo passare un argomento da specialisti. In realtà alcune cose sono abbastanza semplici da capire e su altre spesso non vengono puntati i riflettori, vengono raccontate delle cose in un certo modo. Diciamo che cercherò stasera di raccontare alcune cose, perché ovviamente non ho la pretesa di essere esaustivo, su alcuni elementi di questa crisi, e sperando che ognuno di noi abbia con il proprio cervello, perché uno deve ragionare col cervello degli altri o deve credere a quello che dicono gli altri, deve ragionare col proprio cervello, e da anarchico rivendico il fatto che ogni individuo ragioni con la sua testa e non con la testa di un altro. Io do degli elementi, delle suggestioni, delle riflessioni da fare, poi facciamolo insieme, confrontiamoci, il dibattito è aperto, insomma. Cominciamo dal discorso della crisi. La crisi, paradossalmente, viene proprio dal greco. In Europa oggi c'è una crisi che ha l'epicentro nella Grecia, la parola crisi è crisis, viene dal greco e significa scelta. In questa situazione nessuno ha scelto nulla. Qui nell'immagine iniziale della presentazione abbiamo messo due mucche, sono due cartoni di mucche, sono simpatiche, ma servono a ricordare una cosa, per capire l'impazzimento. L'Unione Europea dà agli allevatori di mucche per le quote latte 600 euro l'anno. 600 euro l'anno significano al giorno 2,20 dollari. Sono 800 dollari circa col cambio di ieri, non ho avuto il modo di controllare i cambi stamattina, non so, cambiati molto. Sono 2,22 dollari e 20 centesimi al giorno. La Banca Mondiale fissa il livello di povertà a 2 dollari al giorno, cioè è sotto il livello di povertà al mondo ci sono 2 miliardi e 800 milioni di persone. Le mucche europee guadagnano più di 2 miliardi e 800 milioni di persone sul pianeta Terra. Questa è la cartina, in nero, in grigio ci sono le nazioni che hanno una percentuale maggiore di persone, la maggioranza delle persone che vivono con meno di 2 dollari al giorno, in azzurro quelle che hanno una percentuale di popolazione comunque alta che vive con meno di 2 dollari al giorno. Le mucche europee guadagnano più di 2 miliardi e 800 milioni di persone nel pianeta. Capiamo come è potuto succedere, perché poi non possiamo dimenticare che la crisi nasce da queste cose, nasce dal fatto, scusate, nasce dal fatto che non è, Dio, questa è una presentazione un po' così, nasce da una serie di storture che ci sono a livello mondiale, cerco di segnalarle. Il PIL mondiale è di 70 mila miliardi di dollari, la contabilità mondiale si fa in dollari, non si fa in euro, non si fa in yen, non si fa in rubli e non si fa in altre monete, si fa in dollari. In dollari il PIL mondiale, secondo il Fondo Monetario Internazionale, vale 70 mila miliardi di dollari. PIL è una parola un po' ostica, viene utilizzata, spesso non si capisce che cosa significa, scusate il tono professorale, però è il caso di specificarlo. Il PIL significa prodotto interno lordo, è la somma dei beni e servizi finali prodotti da un'economia in un anno. È una stima, come tutte le stime ha un grado di aleatorietà notevole. In Italia il 20% del PIL è dato dal sommerso, è un'invenzione che usò Craxi per superare l'Inghilterra. Quando l'Italia, quando c'era ancora il G5, l'Italia, Craxi nelle sue ambizioni imperialiste, si inventò che l'Italia aveva un PIL maggiore dell'Inghilterra. Per poterlo fare, disse che l'Italia aveva un sommerso, un'economia sommersa, il lavoro nero, l'economia non fatturata, pari al 20%. Poteva dire 25, poteva dire 15, non cambiava nulla. Il 20% gli serviva a superare l'Inghilterra, a far diventare l'Italia la quinta economia del mondo. Per quello, da allora, in Italia il 20% dell'economia, fatte tutte le statistiche, viene aumentato arbitrariamente del 20%. Il PIL è basato solo sulle transazioni economiche. Io vengo a fare un lavoro a casa sua, non mi paga, non entra nel PIL. Mi paga, entra nel PIL. Il no profit non entra nel PIL. C'entrano invece le rapine, gli scippi, gli omicidi, le catastrofi, i terremoti, perché determinando un flusso finanziario a copertura assicurativo entrano nel PIL. I funerali entrano nel PIL perché le spese funerarie entrano nel PIL. Il PIL, io qui ho messo l'immagine degli omini con la chiave inglese, in realtà l'immagine corretta è questa: è una persona piena di carte. Il PIL è soprattutto, non è basato sulla produzione reale. Capiamo, molto spesso vengono date queste misure così, e se, bisogna anche capire di che si sta parlando. Il PIL è un'altra stima aleatoria, ma è la stima, paradossalmente, è meno aleatoria di quelle, tra quelle che governano l'economia mondiale. Il mercato azionario, che è un'altra di quelle aree, qui non entra nel PIL perché si tratta di un mercato patrimoniale, vale 47.000 miliardi di euro, non è il valore delle aziende, è un valore dettato da condizioni che sono altre, non c'è rispondenza tra questo e il valore reale della produzione espressa dalle aziende. Così come il mercato obbligazionario, che sono i titoli che le aziende prendono in prestito, i prestiti che le aziende chiedono al mercato, i titoli di Stato, il debito sovrano, quello su cui oggi c'è la crisi, vale 74 miliardi di euro, cioè più del PIL mondiale, più del PIL mondiale. Ma più di tutti, questa è l'economia mondiale, è un iceberg. La parte emersa è il PIL di 70.000 miliardi, c'è il mercato azionario per 50.000, il mercato obbligazione per 74.000, ma soprattutto c'è il mercato dei derivati per 707.000 miliardi di euro, 10 volte il PIL. Questo è il centro dell'economia mondiale. Oggi il PIL del mondo, cioè tutto quello che viene prodotto, con tutte le stime, l'arbitrarietà, l'aleatorietà, vale un decimo di quelle che sono le transazioni trattate sul mercato dei derivati. Il mercato dei derivati spesso è complicato, in realtà si tratta di alcuni titoli, si tratta di scommesse che vengono fatte. I derivati sono di fatto scommesse, hanno una loro catalogazione. Si può emettere un titolo derivato su qualsiasi cosa, stiamo parlando di migliaia di contratti scambiati, milioni di contratti scambiati ogni giorno, su mercati che non sono regolamentati da nessuno. Il mercato dei derivati ha sostanzialmente alcuni tipi di titoli. Sono i future forward come tipo di titoli, poi vediamo che cosa sono. Sono gli swap, swap significa baratto, future significa futuro, forward significa avanti, sono titoli analoghi. Swap significa baratto, che sono sui tassi di interesse, sulle valute, sulle default, sulla possibilità che uno Stato fallisca. O sono chiamati titoli esotici, uno può anche fare un future sul fatto che nevichi o meno a Roma, magari Alemanno se l'avesse fatto avrebbe recuperato un sacco di soldi con 32 mm di neve. I future, che sono di fatto valutazioni che vengono fatte sui beni delle materie prime, cioè io compagnia di navigazione ho necessità siccome i miei profitti dipendono in larga parte dal prezzo del petrolio, per esempio, perché ovviamente devo rifornire le mie navi, io magari mi chiamo Costa Crociere, non mi piate peschettino, e ovviamente i soldi li faccio in base a quanto, vendendo le crociere, in base a quanto costa il petrolio. Se io compro dei future a un prezzo del petrolio più alto, e nel momento in cui il petrolio dovesse salire, guadagnerò sul future, avrò rimesso sui guadagni perché dovrò pagare di più il carburante che uso per le mie navi, ma contemporaneamente avrò guadagnato sui future e quindi il mio profitto sarà stato costante. Per un capitalista è più importante avere la certezza del profitto che l'aleatorietà del guadagnare nulla o addirittura rimetterci e guadagnare tantissimo. Io preferisco essere sicuro che i miei 10, 100, 1000 milioni di euro mi fruttino un 5, 6, 7% piuttosto che posso rimetterci il 20 come guadagnarci il 20. Mi interessa guadagnarci comunque una cifra. Il meccanismo dei future serve a quello. Abbassate un attimo, se no c'è il ritorno col fischio. Che cosa succede però? Che il mercato delle materie prime non è un mercato libero. Il mercato delle materie prime è controllato da queste compagnie. Sono 12 compagnie. Controllano tutto il mercato delle materie prime al mondo. Oggi, se voi comprate qualcosa, lo comprate nell'80% dei casi da queste 12 compagnie che controllano dal mercato del rame a quello dello zinco, al mercato, e questa è la cosa più terribile, dei prodotti alimentari. Dico la cosa più terribile perché 4 multinazionali, la DM, la Bunge, la Cargill, la Defrius, è francese, le altre sono statunitensi, controllano l'80% del mercato delle materie prime alimentari. Tutti gli aumenti di prezzo delle materie prime che ci sono stati negli ultimi anni e che hanno condannato alla fame e alla morte per fame, oggi al mondo muoiono molte più persone per fame di 50 anni fa. La globalizzazione questo ha significato. Ha significato che ci sono 4 multinazionali che hanno fatto profitti tra il 50 e il 60% del loro fatturato in anni di crisi. C'è la crisi mondiale e questi hanno guadagnato cifre di qualche miliardo di euro sulla pelle, è il caso di dirlo, dei morti di fame del mondo. Perché è chiaro che se un bushel, che è l'unità di misura del grano, aumenta del 100%, quelli raddoppiano il profitto, ma raddoppiano anche i morti per fame. E questa è l'eticità del profitto di questi signori. Oltre a quello, dicevamo, c'è il mercato finanziario. Mercato finanziario che è anche peggio, perché è quello che sta determinando la crisi, perché oltre alle morti per fame ci sono i bambini malnutriti in Grecia, ci sono le file agli ospedali, ci sono i pronto soccorsi che chiudono in Italia, ci sono il miliardo di situazioni, ci sono le persone che si danno fuoco perché non riescono a comprarsi casa, ci sono altrettanti morti, tanti quanti morti per fame, è brutto, è sbagliato fare una graduatoria delle persone che soffrono. Quello è l'altro aspetto. Il problema è che questo aspetto qui, dal punto di vista economico, coinvolge una parte ancora maggiore. Cioè di quei 700 mila miliardi che vedevamo all'inizio, le materie prime ne rappresentano 100.000, 600.000 è questa, è area finanziaria. E di questi ci sono 4 banche, la somma è sul lato a destra, la JP Morgan Chase National Bank, la Citibank National, Citibank e Merrill Lynch si sono fuse, Bank of America e Goldman Sachs, che rappresentano la maggior parte del mercato. Eccoli qui, tutti gli altri operatori sul mercato dei derivati finanziari rappresentano il 6,21%. 4 banche controllano il 93,79% del mercato dei derivati, cioè di 10 volte il PIL mondiale. Capiamo di cosa stiamo parlando. Quando parliamo di crisi, sono questi i signori che ci guadagnano. E di questi ci guadagnano alcuni signori che sono i loro proprietari. I loro proprietari sono questi qui, non si vedono bene. Vi leggo le prime società, perché li ritroveremo più avanti su un altro assetto proprietario: la Capital World Investors, la Vanguard Group, Price Tower Associated, State Street Corporation, BlackRock Trust Company, Allianz Bernstein. Ovviamente, tra l'altro, uno si aspetta, sono quattro banche che se vengono al mercato si faranno la guerra tra di loro. No, come potete vedere, i proprietari sono gli stessi per tutte. Cioè, queste qui, questi sono, io ho tirato giù, si trovano su internet, i primi 10 proprietari di ognuna di queste, sono gli stessi. Addirittura si possiedono tra loro. La Morgan Chase Company possiede quote delle altre 3, la Citibank possiede quote di 2, la Goldman Sachs possiede quote della Bank of America, dei 4 hanno incroci azionari tra loro, nonché gli stessi proprietari. Queste sono le stesse società, cioè il 96% del mercato è controllato dagli stessi proprietari, che sono quelli che attraverso 4 società diverse lo amministrano. Il mercato delle transazioni finanziarie, come ormai abbiamo imparato persino dai telegiornali, anche da quello di Menzolini ogni tanto, è regolato da alcune società che si chiamano agenzie di rating. Le agenzie di rating sono delle società che danno le valutazioni sull'affidabilità di un debitore. La cosa era quasi ignota fino al 1975, quando la SEC, che è l'autorità della borsa americana, stabilì che i bilanci delle società presenti sul mercato di New York, che quindi a Wall Street, che quindi erano di fatto le più importanti del mondo, dovessero avere certificati anche i propri crediti. Cioè, se io dico c'ho un miliardo, lui mi deve dare $1 miliardo, e dammelo, con Carme per favore, c'è qualcuno che deve dire che lui mi deve per davvero, perché se no ho detto una frescaccia, e per quel punto che io iscriva all'attivo del mio bilancio $1 miliardo per far salire il prezzo delle mie azioni è ovviamente una cosa falsa. La SEC stabilì che erano 3 società che lo potevano fare: Moody's, Standard & Poor's e Fitch. Queste 3 società sono ancora le 3 che controllano tutto il mercato. Moody's e Standard & Poor's controllano il 39% e il 40% del mercato del rating, Fitch controlla il 15%, tutti gli altri controllano il 5%. Non è che non esistono gli altri, ci saranno almeno qualche centinaio di società di rating sparpagliate per il mondo, però non contano nulla, perché il mercato è controllato da loro. Sono tra le società più redditizie al mondo, sono addirittura più redditizie di quelle che abbiamo visto prima, che traffico in materie prime con profitti del 50-60%. Queste società qui vengono pagate dai debitori, cioè io debitore, per essere certificato, pago la società che me lo deve certificare, quindi la pago bene e non mi metto a discutere del prezzo. Sono società che hanno dei profitti nell'ordine del 60% del fatturato, sono cifre folli. Sono cifre che non hanno alcun senso economico, perché vuol dire il mio valore aggiunto a un'attività non può essere pari al 60% di quello che costo. E invece è così. Queste società fatturano queste cifre. Oltretutto hanno, avendo la possibilità di influenzare i mercati, ovviamente hanno anche una cosa che si chiama insider trading. Cioè, io ho delle informazioni, perché il mercato di borsa è un mercato dove le profezie si autoavverano. Se io dichiaro e sono autorevole che quella società fallirà, tutti venderanno le azioni di quella società, e quella società probabilmente fallirà sul serio. Il meccanismo è quello, cioè io ho un'informazione, se a quel punto io vendo allo scoperto, cioè io so che io domani faccio una dichiarazione del fatto che quella società fallirà, e vendo le azioni di quella società dicendo io te le do dopo domani, e il giorno dopo io faccio uscire i risultati sul fatto che quella società fallirà, ovviamente i prezzi delle azioni crolleranno, e io che le ho vendute a un prezzo del giorno prima dell'arrivazione guadagnano un sacco di soldi. È una pratica illegale che però queste società possono fare, perché non c'è alcuna trasparenza rispetto alla loro attività. Anche per questo, oltre al profitto fatto dal punto di vista formale, appunto quello che emerge dai bilanci, c'è anche questo. C'è anche il meccanismo dell'insider trading, così come se ritengo che una società è solidissima e il mercato la tratta poco, compro le azioni di quella società prima di dare una cosa e quindi ci guadagno. I proprietari di queste qui sono alcune società. Curiosamente sono le stesse delle società che controllano i costi, cioè la Capital Group, Vanguard, Price, State Street, BlackRock, Allianz Bernstein, cioè le società che controllano, tranne Fitch, che è controllata da un miliardario francese che controlla la FIMLAC, si chiama, me lo sono segnato, la Drete della Cherie, è un signore che vive in un castello francese, possiede alcuni marchi di moda, è uno di quelli proprio che si è affrettato ovviamente quando Moody's, quando Standard & Poor's ha levato la AAA alla Francia a confermarla, tanto perché così almeno non aveva problemi in loco, non aveva problemi con i francesi, tranne loro. Le altre, che sono quelle che, ripeto, controllano da sole l'80% del mercato, sono possedute dalle stesse società. Stiamo parlando solo dei primi 10 azionisti, verosimilmente controllando gli altri hanno anche quote minori, cioè sono gli stessi proprietari di tutte. E badiamo bene, le percentuali di possesso non sono elevatissime, però sono quelle che si chiamano in gergo public company, cioè azionariato diffuso, dove basta avere una quota relativamente bassa del capitale e mettersi d'accordo per avere il controllo della società. Cioè nel consiglio di amministrazione di queste società siedono le stesse persone espresse dagli stessi raggruppamenti che decidono chi siede nel consiglio di amministrazione di quelle altre banche che operano sul mercato. Stiamo parlando delle stesse persone, cioè stiamo parlando di alcuni signori. Questi sono sei che ridono, questi sono i sei uomini più ricchi del mondo. Sono e ridono, grazie al cavolo, sono quelli che hanno guadagnato. In Italia Benetton in quest'anno di crisi ha guadagnato 300 milioni di euro, mentre la Fornero piangeva per aver tagliato le pensioni ai pensionati, Gilberto Benetton guadagnava 300 milioni di euro. I Benetton sono cinque fratelli, Gilberto è quello che ha la quota leggermente più alta, gli altri hanno guadagnato quasi lo stesso, 2,90, 2,85, cioè una famiglia in Italia ha preso 1,5 miliardi di euro, che sarebbero bastati con i soldi delle autostrade, cioè con quella privatizzazione fasulla fatta da D'Alema, tanto per fare nomi e cognomi, per cui noi ogni anno regaliamo un aggio di tipo medioevale a una famiglia che non ha fatto assolutamente nulla, tranne il ponte sullo stretto di Messina, dove ovviamente i Benetton sono coinvolti, così come in 1 miliardo di altre operazioni finanziarie italiane, e non sono stati minimamente scalfiti da questa situazione, come gli altri ricchi in Italia. In Italia questa situazione non ha toccato, la piramide si è appiattita, è diventata una clessidra, la piramide sociale in Italia è diventata una clessidra, la classe media è stata scaventata verso il basso, ma una parte è stata portata verso in alto, siamo in una clessidra in Italia. Questi signori qui fanno parte di una classifica che fa una rivista, si chiama Forbes, no, oddio, sono tornato indietro, scusate, la classifica è questa, sono i 100 uomini più ricchi, se si fa la somma hanno un patrimonio pari a 1.705,8 miliardi di dollari, 1.705,8 miliardi di dollari. Queste sono le nazioni dove ci sono i morti per fame, quelli che dicevamo prima, in rosso, in grigio, sono le percentuali della popolazione che muore per fame, quelli in rosso sono percentuali superiori al 35% di persone che soffrono la fame. Queste persone hanno un patrimonio che è superiore al reddito annuale di 116 stati del pianeta. L'1% della popolazione mondiale possiede il 35% delle ricchezze del mondo. Quando noi anarchici diciamo, guardate che non può funzionare in questo modo la cosa, diciamo questo, capiamolo. E le conseguenze non è soltanto un problema, la conseguenza sono i morti per fame, sono i bambini che muoiono, sono il fatto che nel mondo oggi muore più gente che 50 anni fa di fame. Questa è una vergogna, questa è una vergogna, la crisi vera è questa. E questa è figlia di quella organizzazione capitalista che abbiamo visto prima. Veniamo alla crisi europea. Questo qui è il bilancio italiano, poi lo vediamo in maniera più approfondita più avanti. Mi serve per spiegare alcuni concetti. Questo è il bilancio italiano del 2011, l'anno appena trascorso, con le manovre. Ci sono una serie di entrate tributarie per 414 miliardi di euro, extratributarie 31 miliardi, alienazioni e ammortamenti 1 miliardo. Il totale delle entrate è stato 446 miliardi 949 milioni di euro, le uscite sono state spese correnti 362, gli interessi 84, in conto capitale quasi 40, totale uscite 489, il deficit è stato quasi di 40 miliardi di euro. Scusate. Il bilancio ovviamente non conta di per sé. Se io ho un deficit di 40 miliardi di euro, manco mi restano, perché, cioè, come diceva il buon Charlot, se ammazzi una persona sei un omicida, se ammazzi un milione di persone sei un eroe di guerra, se rubi 10 euro sei un ladro, se rubi un milione di euro sei un finanziere. Il meccanismo è, se riuscissi a averci 40 miliardi di deficit e di debito sicuramente sarei un finanziere, però tra gli stati il rapporto del debito è in rapporto al PIL, al prodotto interno lordo, cioè a quello che produce l'economia in un anno. In Italia il PIL nel 2010, dal 2011 ancora non ci sono, è stato di 1600 miliardi. Non si è modificato di molto, l'Italia il PIL è quasi fermo, è aumentato dello zero spicci qualcosa nel 2011, quindi diciamo pigliamo per buoni 1600 miliardi. Il rapporto debito-PIL è del 118,4%. Allora, e questo è fatto così, 1900 sono il debito complessivo dello Stato italiano, perché i debiti si sommano, 1600 è il PIL. Il rapporto debito-PIL è di 118,25. Supponiamo adesso, lo faccio come ipotesi per far capire però come funziona l'economia in Europa a questo periodo. Supponiamo che lo Stato italiano abolisca le spese, tranne quella per interessi, i soldi sui debiti di evitare, non fa più né spese correnti né spese in conto capitale, quindi taglia le spese per 402 miliardi 359 milioni di euro e vediamo che succede. Le uscite, il debito complessivo diminuisce della cifra uscita, cioè da 1900 si passa a 1537, però abbiamo visto prima che anche il PIL dipende dalle uscite pubbliche, cioè il PIL diminuisce da 1600 a 1198, perché ovviamente devo levarle anche dal PIL. Che succede? Succede che il rapporto debito-PIL, che diventa 1537 o 1100, aumenta da 118 che era prima, diventa 128. Questa può sembrare una frescaccia di scuola, in realtà purtroppo è quello che è successo alla Grecia. Questo è il PIL greco che a seguito delle manovre economiche è diminuito e questo è l'aumento del rapporto debito-PIL. I greci dal 2008, e poi spiego come è esplosa la crisi greca perché è bene anche saperlo, dal 2008 stanno tagliando le spese dello Stato greco. Questo taglio di spese comporta una riduzione del PIL. Sulla colonna di destra vedete che il PIL greco nel 2008 è diminuito allo 0,2%, nel 2009 del 3,3%, nel 2010 del 3,5%, nel 2011 del 5,5%, nel 2012 è atteso il 2,8%, ma già si sa che sarà di più. Sulla colonna di destra il rapporto debito-PIL, per quanto siano diminuite le spese, è aumentato fino al 161% del PIL. È quella che chiamano la tragedia greca, cioè seguono a tagliare le spese, ma il rapporto debito-PIL aumenta. È il motivo per cui è inevitabile il default greco. Mo, senza immagini, vi racconto due cose sulla storia greca. Il problema del rapporto tra il debito greco, il fatto che il debito greco fosse a questi livelli, è esploso nel 2008 per un problema banale. I greci falsificavano i bilanci. I greci, per entrare nell'euro, falsificavano i bilanci. I greci avevano l'euro, come si ricorderà chi magari ha letto la cosa, è stato, prevedeva dei parametri fissati dal trattato di Maastricht. Prevedeva che ci fosse un'inflazione inferiore al 2% all'anno nel paese che chiedeva l'adesione, un rapporto debito, cioè il debito annuale, prodotto interno lordo, pari al 3% e un rapporto deficit, cioè la somma dei debiti complessivi, PIL, inferiore al 60%. L'Italia, il Belgio e altri paesi non avevano questo rapporto, sforavano uno dei parametri. Altri paesi ne sforavano altri, la Spagna e il Portogallo avevano un'inflazione un po' più alta, altri avevano un rapporto debito-PIL maggiore, però in realtà nel 2000 fecero entrare tutti con uno dei parametri in errore. La Grecia però li sforava tutti e tre, però era l'anno, se vi ricordate, dei referendum sull'adesione all'Unione Europea, dove c'erano un po' di nazioni, alla Danimarca, alla Francia, che cominciavano a dire no, quindi c'era necessità di far entrare la Grecia. Risultato, una di quelle banche che abbiamo detto prima, la Goldman Sachs, che ha fatto? Ha dato una mano alla Grecia a falsificare i bilanci, ha fatto uno di questi derivati che si chiama cross currency swap, cioè ha fatto finta che qualche miliardo del debito greco venisse convertito in yen, dagli yen in dollari, dai dollari nuovamente in dracma, a un tasso di cambio particolarmente favorevole, per cui da tutto il suo bilancio sparivano 3 miliardi, per cui il debito complessivo greco si abbassava. Riuscivano a rientrare nei parametri, riuscivano così a far vedere che hanno fatto grossi sforzi, che il bilancio era in via di tiramento, diminuivano le cose e rientravano. Contemporaneamente la Goldman Sachs si prendeva gli incassi delle lotterie greche, delle autostrade greche e non mi ricordo se gli incassi museali, vado a memoria, potrei sbagliare. In una situazione del genere ovviamente era un costo molto maggiore di quello che avrebbero ottenuto finanziandosi sul mercato, cioè se i greci avessero emesso titoli di Stato denominati in dracme per i 3 miliardi che la Goldman Sachs gli ha fatto sprecare, avrebbero pagato di meno. Come sempre, quando fai un'operazione illegale paghi un po' di più di quando la fai legale in termini finanziari. Però che è successo? Che con questa cosa sono entrati, puntando sulla riduzione degli interessi che il mancato rischio cambio, perché ovviamente se io compro titoli denominati in dracme devo avere un interesse maggiore perché ho il timore che la dracma possa essere svalutata. Se li compro denominati in euro, soprattutto se vivo in un paese dell'area euro, non ho il problema e quindi posso accettare di pagare un tasso di interesse minore. Il guadagno fatto sui tassi di interesse non è stato portato ad estinzione del debito, ma è stato utilizzato per politiche di consenso sociale da parte dei partiti al governo in Grecia e il debito man mano è andato incrementando, fino a che nel 2008 non sono più riusciti a pagarlo e hanno detto: signori, vi dobbiamo confessare che abbiamo fatto un imbroglio, e è uscito fuori il problema del debito greco. C'era Monti nella commissione che ha accettato la cosa, c'era anche Draghi all'epoca vicepresidente della Goldman Sachs, e c'era la Goldman Sachs che è quella che oggi detiene i titoli greci. Cioè stiamo parlando di attori che hanno fatto due parti in commedia. C'erano i proprietari della Goldman Sachs che sono gli stessi che oggi stanno declassando il rating della Grecia, tanto per completare tutta la questione. Questa situazione qui ha fatto sì che i greci dovessero intervenire con manovre correttive del proprio bilancio, con questa situazione dove la disoccupazione greca è schizzata alle stelle. Questo è un dato vecchio, è ulteriormente aumentata la disoccupazione greca. E non si veda via d'uscita, perché nonostante tutte le ulteriori manovre che hanno fatto, oggi l'aspettativa è di vedere il rapporto debito-PIL greco al 120% nel 2020. È una frescaccia. La Grecia già adesso è tecnicamente fallita. Stanno facendo di tutto perché i titolari del debito sono le banche francesi e tedesche, a cui quando Quando si dice hanno dato un prestito di 130 miliardi alla Grecia, quello non è uscito dai confini di Francia e Germania, è uscito dalle casse della BCE per finire nei forzieri del Credit Agricole, della Deutsche Bank, delle banche che hanno comprato titoli greci. Badate bene, li hanno comprati con un meccanismo che si chiama carry trade, cioè che significa? La Banca Centrale Europea, fino alle ultime modifiche nelle politiche di acquisto, non comprava i titoli di Stato degli Stati, prestava i soldi alle banche, al tasso dell'1%. Io banca mi compro, prendo i soldi in prestito a BCE all'1%, i titoli greci prima della crisi quotavano il 6%, io prendo i soldi all'1%, ci compro i titoli greci al 6%. Ci guadagno il 5% di differenza senza correre alcun rischio, anche perché i titoli di Stato, per le regole contabili bancarie, quelle che si chiamano Basilea 2, perché nella città svizzera sono state sottoscritte dall'Organizzazione Mondiale delle Banche, prevedono che i titoli di Stato siano considerati sani e solvibili, cioè che non ci sia il rischio default, siano considerati come moneta liquida, cioè le banche facendo un'operazione del genere prendono dei soldi all'1%, comprano dei titoli al 6%, ci guadagnano il 5% senza rischiare nulla. Come sempre, l'ho detto all'inizio, l'economia è un gioco a somma zero. Questo che vuol dire? Chi ci rimette? Ci rimettono i greci, che invece di pagare i titoli all'1% gli interessi, pagano gli interessi al 6% per dare il 5% alle banche. Perché non si vede perché la BCE li debba prestare alle banche europee e non allo Stato greco, visto che si indebita su questi titoli. E oltretutto, visto che quelli ci guadagnano, non si capisce perché nel momento in cui ci devono rimettere devo pagarli io. Cioè non è che il presidente del Credit Agricole mi fa, quando aveva fatto questo lavoro e aveva guadagnato il 5%, mi telefona la sera e fa: Franci, ho guadagnato 50 miliardi d'euro, te manno 3.000 euro che la quota tua di cittadino europeo per questa cosa e te ci vai a mangiare una pizza con gli amici. E oggi però mi chiedi i soldi perché non ce li ha più. Come funziona? Cioè la logica è quella, come al solito, di privatizzare i profitti e collettivizzare le perdite. E quello che è? Collettivizzarla a danno di tutti i cittadini, in primis i cittadini greci, che su questa cosa, ripeto, questo è il dato della disoccupazione che è aumentato ulteriormente e che sta determinando un dramma in Grecia. In Grecia c'è gente che si è data fuoco perché queste cose, voi immaginate quando ci avete il mutuo di casa e vi schizzano gli interessi al 20% e vi licenziano, che vuol dire che tu dopo che hai pagato 15 anni di mutuo e ti mancano 4 anni non riesci più a saldarlo, che prospettive di vita c'hai senza lavoro? Cioè questa è la situazione. Torniamo al bilancio italiano, perché anche in Italia ci sono delle cose interessanti su cui ragionare. E questo è il bilancio, l'avevamo detto prima. Guardiamo un attimo che c'è dentro le spese correnti. Le spese correnti, avevo detto, il lato, qual è il problema? Tra l'altro, incidentalmente, perché aumentano la benzina, aumentano le tasse, non riducono? Perché la diminuzione delle spese è quella che fa diminuire il PIL e quindi determina il problema greco. È quello il motivo per cui in Italia stanno aumentando a rotta di collo la tassazione e soprattutto la tassazione indiretta. Faccio un'altra digressione. Le tasse si dividono in tasse dirette sul reddito, tanto hai, tanto paghi, che possono essere progressive, e tasse indirette sul consumo. Dal punto di vista della teoria economica, le tasse dirette sono tasse progressive, cioè tu hai più soldi paghi, tra l'altro in Italia la tassazione è progressiva, cioè tanti più soldi hai, tanto più paghi. Se tu guadagni 20.000 euro paghi il 10% di tasse, se ne guadagni 50.000 paghi il 33% di tasse sulla parte eccedente 20.000, se ne paghi 100.000 eccetera eccetera. Le tasse indirette no, paghi l'IVA al 22%, al 21% diventerà il 23% eccetera. Qual è il problema? Che le imposte indirette sono regressive, cioè chi meno ha più paga. Perché? Perché se io guadagno 1.000 euro al mese, io spenderò verosimilmente tutto quello che guadagno in cose, ce devo mangiare, ce devo pagare affitto, ce devo pagare asilo per i figli, ce devo pagare i libri, varie altre cose, quindi spendo tutto. Il che vuol dire che io il 21, 20, 23% di IVA lo pago di tasse. Io che guadagno 1.000 euro pago il 23% di tasse. Io che ne guadagno 10.000, non spendo tutto, ne spendo 5.000 perché vado a mangiare, vado in vacanza, faccio la settimana bianca, però 5.000 me li metto da parte, il che vuol dire che sul mio reddito io non pago il 20%, il 22%, pago il 10%, pago l'11%. Per quello io che guadagno di più pago di meno, perché non spendendo e risparmiando riesco. In Italia da 5-6 anni a questa parte si è scelto di spostare la tassazione dalle imposte dirette sui redditi, cioè chi più ha più paga, e paga in maniera progressiva, perché è chiaro che 1.000 euro per te che ne guadagni 100.000 di più di tasse sono molto meno di me che ne guadagno 20.000. Per cui se io posso permettermi di pagare X di tasse, detto puoi permettere di pagare X più Y, cioè una percentuale ancora maggiore, si è deciso di spostarle sulle tasse sui redditi, in cui, sulle tasse sui consumi, in cui rientrano tra l'altro anche le accise sulla benzina. Perché? Perché se io guadagno tantissimo, quanto spendo di benzina? Spenderò il 5% del mio reddito. Io pago le tasse su quello. Se io spendo l'1% del mio reddito di benzina, io pago le tasse sull'1%. Capiamolo. Il che vuol dire che chi è più ricco paga di meno. Per questo motivo in Italia stanno facendo tutta la manovra sulle entrate, e la stanno facendo in un modo che penalizza chi ha meno. Stanno facendo anche alcune operazioni sulle uscite. E adesso le vediamo. E l'ultima cosa sul lato delle entrate, c'è una voce che alienazione e ammortamento. Adesso stanno vendendo. In Italia stanno vendendo alcuni beni demaniali, tra le altre cose, sono previsti dalle manovre economiche. La vendita dei beni demaniali fatta in questo modo sta ricreando il latifondo in Italia. Non lo dice nessuno. Oggi in Italia sta rivenendo fuori il latifondo. Con la riforma agraria negli anni 50 si era riusciti a eliminare il latifondo, che era il dramma, soprattutto qui al sud, ma in tutta Italia, di padroni che possedevano intere estensioni di terreno e non le utilizzavano, le sottoutilizzavano, che tra l'altro ha determinato innesti malavitosi all'interno della vita sociale, perché poi serviva a controllare chi cavolo, i mezzadri, i coloni, eccetera eccetera. Oggi in Italia si sta con il meccanismo delle alienazioni dei beni pubblici ricreando il latifondo. Ovviamente quelli nelle città, i beni, le case vanno ai soliti nodi, a chi oggi ha i soldi in tempi di crisi, cioè i Benetton, cioè gli Gnutti, cioè i Caltagirone, cioè i Berlusconi, cioè i palazzinari, a quelli che in Italia hanno fatto i miliardi con la crisi e li stanno seguitando a fare. Oggi la vendita a prezzi scontati ovviamente viene fatta da chi ha i soldi, e chi ha i soldi sono i soldi di ricchi. Questo sul lato delle entrate. Sul lato delle uscite invece ragioniamo un attimo sulle uscite correnti per vedere cosa c'è e per far capire anche un altro aspetto. Le uscite correnti sono queste, il totale delle spese correnti sono gli stipendi del pubblico impiego, quasi 90 miliardi, le pensioni sono 95 miliardi, gli oneri accessori, l'IRAP che viene pagata, è una partita di giro però rientra, sono 4 miliardi, cioè il 52%, più della metà della spesa corrente dello Stato italiano è fatta di stipendi e pensioni, per quello stanno tagliando lì. Perché è più facile. Ricorda la barzelletta dell'ubriaco sotto al lampione. Un tizio ubriaco sta sotto un lampione a cercare le chiavi. Arriva uno, dice: senti, ti do una mano, che te sei perso le chiavi, ti do una mano. Dice: vabbè, cerchiamole. Dopo un po' che non le trovavano, scusa, ma dove te le sei perse? Laggiù, al buio. Scusa, allora perché cerchi qua? Perché qui le vedo, lì no. Il meccanismo dello Stato italiano è questo, cioè colpisce e dopo colpì. Cioè le pensioni e gli stipendi del pubblico impiego, come l'ubriaco sotto al lampione, perché siccome è complicato andare a vedere le altre fonti di spesa, allora colpisce là, perché è più facile. Hanno bloccato gli stipendi del pubblico impiego, da un po' di anni saranno bloccati fino a cosa? Il che significa, il blocco degli stipendi, tu ogni anno in termini reali perdi quello che è l'inflazione. Stanno l'inflazione è stata al 3,2, a gennaio l'inflazione è stata al 3,2, l'anno scorso è stata al 2,8, tu vuol dire che hai perso il 6% del stipendio, nel 2015 avrei perso il 15-20% del stipendio, dipendentemente dall'inflazione, con l'aumento dell'IVA ovviamente e con l'aumento della benzina che si trasmette a tutte le merci, c'è cioè un'inflazione ancora aumentata. Vuol dire che dipendente pubblico è come se quella quota l'hai tagliata del 20% senza che nessuno dica nulla. Le pensioni, stesso discorso, le lacrime della Fornero, le cose, è una vergogna che ci siano pensioni di 500 euro al mese. Chi, oggi come ci campi con 500 euro? Il problema vero è quello, fai lacrime. Vendesse le case che c'ha, i 7 milioni da cancellieri, ma come fa uno a guadagnare 7 milioni all'anno? Me lo devono spiegare e far dipendente pubblico? Oh, quella faceva il prefetto, 7 milioni all'anno, ma come fai? Cioè, ma, rendiamoci... Come te le sei comprate? Cioè, voglio dire, il problema è quello. Voglio capire come te le sei comprate. Dimmelo. Tu c'hai uno stipendio pubblico, pure Manganelli se potrebbe permettere. Cioè, da 600.000 di Manganelli a 7 milioni, mi devi dire, tu che facevi questo, come hai fatto? Come hai fatto? L'altra quota rilevante sono i trasferimenti agli enti locali, le regioni e i comuni, che vengono sempre tagliati, vengono compensati. Se vi fanno le multe, è per colpa di questo, perché tagliano i trasferimenti agli enti locali, allora gli enti locali si inventano le multe, mettono gli autovelox su cosa, chiunque abbia, sia passato per alcune strade sono tipiche, perché te becchi la multa con l'autovelox e mettono un limite di velocità ridicolo, piazzano l'autovelox per finanziare il comune. Quanti siete in Fiorino, oggi lo fanno con l'autovelox, sono il 31. Il motivo per cui non tagliano le spese degli enti centrali del Parlamento è perché in realtà rappresentano solo il 5% e dal punto di vista contabile sono bassi. Capiamo, perché questo, quando parliamo della casta, è vero, c'è la casta, però dal punto di vista del bilancio complessivo, incidendo poco, non la toccheranno mai, tranne le cose di facciata, i parlamentari con la cosa, tagliamo gli stipendi, cioè, gli hanno aumentato gli stipendi ai parlamentari. Perché? Ah, no, adesso li tagliamo, passiamo alla previdenza, abbiamo tagliato 200, no, siccome sono passati alla gestione previdenziale, prima il vitalizio lo tagliavano dallo stipendio, oggi gli oneri previdenziali gli riversano in più, per cui lo stipendio gli è ritornato pieno, hanno tagliato 200 euro, gli ho aumentato lo stipendio mi pare dei 500 euro al mese, con il taglio che hanno fatto sul vitalizio, il coso, la fava, no, gli ho aumentato lo stipendio. E non lo tagliano perché ovviamente devono votare le manovre. C'è un altro modo di vedere queste spese correnti, è divise per ministeri. Siccome se ne è parlato sto periodo, io ho preso i dati del Ministero della Difesa. Ministero della Difesa perché è una spesa inutile, uno. Due, perché in Grecia, per concedere gli aiuti di 130 miliardi, gli hanno obbligati a comprare due sottomarini da ThyssenKrupp, nome forse vi dice qualcosa, ecco, fa anche i sottomarini, che l'esercito greco in una situazione di crisi dove la gente si è dovuto comprare, perché se no la Germania non gli dava gli aiuti. E una volta facevano le guerre, oggi fanno le cose finanziarie. Ecco, in Italia il Ministero della Difesa ha queste spese. Il Ministero della Difesa spende per le sue cose 14 miliardi e 500 milioni di euro, sono quasi tutti stipendi, pensioni, spese di rappresentanza e altre cose. Le spese al di fuori di queste sono manco un miliardo di euro, 900 milioni. I servizi segreti in Italia, è bene saperlo quando si frequentano gli ambienti anarchici, il Ministero della Difesa di spese extra c'ha, censite dalla Ragioneria Generale dello Stato, 940 milioni, posso sbagliare, dei 10 milioni. I servizi segreti in Italia, ad eccezione degli stipendi degli agenti segreti, consulenti, collaboratori, spende 600 milioni di euro, cioè spende due terzi del bilancio del Ministero della Difesa. Quando trovate le microspie a casa, quando vedete qualcuno, sappiate da cosa deriva. Deriva da questo. Proseguiamo sulla cosa. Il Ministero della Difesa spende 14 miliardi 500 milioni, i carabinieri 5 miliardi 700 milioni. Ah, ovviamente sono ricalcolati con gli ultimi tagli questi. Le missioni all'estero valgono 1 miliardo e 500 milioni. Il Ministero dello Sviluppo Economico, dici che c'entra, poi lo vediamo, spende 3 miliardi e mezzo, nel 2011 spende molto di più. Il Ministero della Pubblica Istruzione, che c'è un sacco di tagli, spende 1 miliardo e 700 milioni. Altri enti, ministeri spendono 100 milioni per un totale di 27 miliardi, il Ministero della Difesa. La domanda ovviamente sorgeva spontanea da prima: che c'entra il Ministero dello Sviluppo Economico con la guerra? C'entra perché tutti i programmi di investimento pluriennale sono in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, non al Ministero della Difesa. Questi sistemi d'arma, io ho ridotto i caccia F-135, erano 131, adesso saranno 90. La Lockheed che li produce, già detto, io però non posso ridurvi, dovete pagare 10.000 euro perché aumenta il costo unitario. Noi spendiamo 10 miliardi di euro per 90 caccia F-35. La portaerei, stiamo facendo una portaerei che si chiama Cavour e costa 1 miliardo e 300 milioni. 10 fregate classe FREM per 5 miliardi a 600 milioni, 8 droni, sono gli aerei senza pilota che vengono utilizzati, sono 1 miliardo e 300 milioni, 2 sommergibili, pure noi da ThyssenKrupp, sai, se sa mai i tedeschi, d'altro canto tocca pure farli, tocca pure tenerli buoni, per 1 miliardo. Il problema, ovviamente, c'era pure il Ministero della Pubblica Istruzione prima. Che ci fa il Ministero della Pubblica Istruzione? Questa pubblica istruzione, queste sono le cose, c'ha dei satelliti, scusate, c'entro la cosa perché, c'ha dei satelliti, l'Italia ha 5 satelliti spia che si chiamano Cosmos SkyMed, che sono gestiti dall'Agenzia Spaziale Italiana, però in realtà ci mette solo le mani la difesa, costano 1 miliardo e 700 milioni l'anno, servono a vedere anche di notte, sono gli unici satelliti che hanno rilevatori, radar, infrarossi, cazzi mazzi come si dice in gergo, sono utilizzati esclusivamente dal Ministero della Difesa e il Ministero della Pubblica Istruzione sul proprio bilancio, però c'è scritto 1 miliardo e 700 milioni per gestirli. Sì, no, devi rivolgere lo sguardo verso il cielo e fare a mani giunte il saluto al satellite. Voi direte, il ministero, sono spese trascinate? No. A novembre scorso, dopo che già c'era stata la crisi, il casino, il governo Monti, tutto quanto, la commissione difesa della Camera ha approvato spese per 507, le centro, così si capisce, 507 miliardi di euro per l'acquisto di una serie di strumentazioni, i Lince, i Centauro, cioè gli autoblindo, quelli che si sono cappottati in Afghanistan, per usare una parola tecnica, la Commissione Difesa della Camera, mezzo miliardo di euro, voglio dire, no, non fatemi fare anarchico 5 minuti, se no, poi io fossi stato, avrei detto, vabbè, quanti ne servono? 10, 20, 30, non è che ne servono 700, no, piamone 20 e poi rinviamo tra 2-3 anni l'altri, invece le spende mezzo miliardo, damo due soldi in più ai pensionati e ne compriamo 30, no, perché? Perché c'è Finmeccanica, no? Finmeccanica è venuta fuori, chi li produce questi? Sono quelli che danno le mazzette e guarguaglini, sono quei signori e quei soggetti che fatturano 16 miliardi all'anno con 500 milioni di utile, pure quella in tempi di crisi non è una cosa così, distribuiscono soldi a pioggia a tutti i parlamentari, sono quelli finiti nell'inchiesta, Bisignani, P4, così. Quelli, il motivo per cui gli regalano mezzo miliardo di euro in tempi di crisi è quello, questi sono soldi che ai componenti della Commissione di Difesa gli sono ritornati in tasca, a loro insaputa ovviamente, come sempre capita, perché questi tutti a loro insaputa, una volta la casa, una volta il coso, una volta il fiassunto, tanto questi sono tutti i soldi che ritornano, anche lì, sono questi. Capiamolo, c'è un'altra voce di spesa che oggi andava per forza citata, la TAV, oggi c'è stato un corteo, ci sono dei compagni che sono stati arrestati semplicemente perché fanno la lotta sociale. Dal punto di vista economico, ovviamente la vediamo al di là del criterio della cosa allucinante di voler fare una opera pubblica inutile solo e soltanto ai danni di una popolazione locale per imporre il solito meccanismo delle ferrovie dello Stato, non riescono a garantire il transito dei treni pendolari con 32 mm di neve a Roma, hanno tenuto a Carzoli il treno bloccato 30 ore, c'era l'autostrada funzionale, manco gli hanno mandato un pullman a recuperare 300 passeggeri che c'erano là sopra e devono fare una TAV che Allora, nel 2011, senza far nulla, perché poi quelli sono le mazzette e i sordi ai vari membri del consiglio d'amministrazione, consulenti, eccetera, hanno speso 600 milioni perché nel 2011 hanno fatto un finto buco e basta. La TAV dovrebbe costare alla fine 35 miliardi e più della manovra economica fatta, capiamoci. Il problema è che ci sono stati, la Roma-Firenze è aumentata rispetto al preventivo iniziale del 6,8%, del 6,8, cioè costava 100 e costava 10 e costava 68, la Firenze-Bologna 4, costava 10 e costava 40, la Milano-Torino 5,6. Se la TAV, come sempre capita in Italia, non so i mondiali di nuoto dovevano costare pochi miliardi, sono costati non sproposito, sono aumentati pure quelli 10 volte, e dici ha gestito Bersolaso che si faceva fare i massaggi, per carità, non è uno un massaggio, oppure paga 10 miliardi, però il problema è che in Italia queste spese lievitano. Se la TAV, se i 35 miliardi della TAV rispettassero altre cose, diventano 238 miliardi, si costano di più tanto quanto la Roma-Firenze, 140 miliardi se costano tanto quanto la Firenze-Bologna, 196 miliardi se costano tanto quanto la Milano-Torino, cioè capiamo di quanti miliardi di euro stiamo parlando per una cosa inutile che servirà a disperdere fibre d'amianto in tutta la Valsusa e ci avremo decine di migliaia di mesoteliomi, che è il cancro tipico da inalazione di fibre d'amianto, negli abitanti della Valsusa che subiranno questo tipo di cose. Aumenta il PIL, certo, perché aumentano anche le spese sanitarie, eccetera. Questi sono gli affari. Torno su un discorso al bilancio dello Stato per far notare una cosa. Quando parliamo di insolvenza e di diritto all'insolvenza, il bilancio dello Stato italiano, se noi non pagassimo gli interessi, cioè dicessimo alle varie Goldman Sachs, Merrill Lynch, Citibank, Bank of America, signori, non vediamo una lira, avete preso i soldi, cavoli vostri, piatevela con Monti, con Berlusconi, con D'Alema, con quelli che ve l'hanno venduto i titoli, non veniteci a rompere le scatole a noi, e il bilancio dello Stato sarebbe inattivo dai 44 miliardi. E su questo invito a ragionare. Chiudo qui per evitare di essere troppo palloso e ovviamente se ci sono domande sono qui. Bene, devo dire che adesso è chiaro. Il cetriolo gira sempre e sono sempre i soliti che se lo prendono. No, colpisce il dato schietto, semplice, intelligibile, insomma, perché altre volte quando si parlava, ripeto sempre, in quelle famose riunioni per organizzare gli indignados cosentini, che non si riusciva a capire qual era il bandolo della matassa, fin quando qualcuno appunto portò quell'opuscolo e disse: il problema sono le banche, il problema è chi mette i voti sui PIL, sulla credibilità o meno di uno Stato, gli interessi che giocano di sopra. Ecco, io per questo c'ho una domanda, perché da tutto ciò tu hai fatto i conticini, no? Da buon ragioniere, hai reso insomma semplice e chiaro per tutti. Cioè, vorrei farti una domanda invece sulla questione degli interessi sui famosi derivati, cioè sul gioco che uno Stato con l'altro, con le agenzie di rating, quello che io dicevo un po' in piazza insieme a una compagna qua presente, che facevamo agitazione in quello spezzone di corteo, mini corteo di 30-40 persone, che però poi quel corteo ha suscitato anche le simpatie da parte di tanti compagni e non semplici cittadini, i rovinati, i precari, come dicevano a Cosenza, insomma, che dicevano: bene, bravi, sì, ecco, va, finalmente un po' di iniziativa. Però poi una delle domande che spesso ci faceva, insomma, era sto gioco sugli interessi dei soldi prestati, un po' quello che hai raccontato sulla Grecia, insomma, se puoi magari farlo capire un pochino meglio, perché per me è uno dei passaggi più interessanti, no? Perché uno paga le tasse, pensa in quel modo, perché adesso no, è nata sta cosa finalmente la finanza si muove a Cortina, poi a Milano, poi a Roma, addirittura a Napoli arriva la finanza, aumentano gli scontrini. A parte il fatto che io non credo nei media, cioè non è possibile che, come dicono loro, che adesso sono aumentati, cioè secondo me questo è tutto fumo negli occhi, per dirci. Però poi ecco, vorrei che spiegassi un buon attimo questa storia sugli interessi, sui giochi, insomma, non so se hai capito. Ci provo. Una notazione sulla finanza. Quello che fa è fuffa, come si dice, nel senso che la vera evasione fiscale non è ovviamente nel negoziante che batte più o meno lo scontrino. L'evasione fiscale si fa sulle migliaia di miliardi che girano su questo tipo di titoli. Le società, le multinazionali che abbiamo visto oggi fatturano molto di più, decidono dove pagare le tasse, si muovono in un'ottica multinazionale. Il problema non è il commerciante, è un approccio di tipo, se vogliamo, propagandistico, cioè il dire, il prendertela col commerciante che magari poi non riesce a far quadrare i conti a fine mese, che capiamo che poi spesso, no? Chi fa il lavoratore dipendente, che cosa diciamo, sono bottegai, per carità, però molti non ce la fanno per davvero con la crisi che c'è stata, arriva a fine mese, capiamolo, non vuol dire che poi a loro volta non siano sfruttatori, eccetera. Però cerchiamo pure di capire che lì è un meccanismo per cui si cerca di andare a colpire realtà che poi non sono quelle che contano, quelle che spostano i miliardi sono le multinazionali, e per la legislazione che c'è in Italia sono inattaccabili, perché io posso dire che un profitto l'ho fatto da una parte o da un'altra. Avrei visto la pubblicità del conto arancio. Il conto arancio è una società olandese, la ING Direct, quella che tasse le paghi in Olanda. Quando voi date i soldi al conto arancio perché vi fidate della pubblicità per l'interesse, il profitto che fa quella società in Italia lo paga in Olanda. Figurati le altre, cioè riescono a gestire la stessa Fiat, le stesse che oggi conta, oggi Marchionne guadagna del proprio stipendio più di tutti gli operai di Mirafiori Lingotto, che se invece di fare quegli accordi di massacro che danno 10 ore per turno di lavoro notturno con l'undicesimo straordinario, che sicuramente comporteranno un aumento dei morti e degli incidenti sul lavoro in un paese che ne conta 5 al giorno di morti e di incidenti sul lavoro, capimo, se avessero ridotto il 10% lo stipendio a Marchionne avrebbero guadagnato di più, la Fiat avrebbe risparmiato più soldi, capiamolo. Il meccanismo, lui le tasse le paga parte in Svizzera, parte in Canada, parte negli Stati Uniti, a seconda del cespite che gli interessa e sulla quota per cui gli interessa pagare le tasse. Quello è il meccanismo. Questo per quanto riguarda il discorso della finanza. Per quanto riguarda il discorso dei derivati, capiamo un altro aspetto. Il capitalismo è come una bicicletta, se non pedali caschi. Il capitalismo deve andare avanti, deve riproporsi, deve riprodursi, non può fermarsi, cioè deve reinvestire i soldi che fa. Per farlo in passato a volte ha usato le guerre, a volte ha usato le catastrofi naturali, usa un meccanismo di distruzione della merce per poter poi riproporre se stesso. Da un po' di anni a questa parte, diciamo da una ventina d'anni a questa parte, ha scelto quest'altra via della finanziarizzazione. La Germania è come se avesse conquistato la Grecia senza fare guerra. Cioè oggi quello che viene imposto alla Grecia da parte della Germania è peggio di quello che è stato imposto alla Grecia dopo la guerra da parte dell'Italia e della Germania. Capiamolo, è il meccanismo del capitalismo. Che meccanismo è il capitalismo finanziario, che comporta però alcune cose, e capiamo anche queste, ma allargo e non c'entra con la domanda, ma do un altro elemento di ragionamento e di dibattito. Noi siamo abituati e siamo cresciuti con una visione in una società post-fordista. Il fordismo è un'espressione inventata da Antonio Gramsci in Americanismo e Fordismo, dove analizzava il meccanismo di produzione utilizzato negli Stati Uniti da Henry Ford. Henry Ford che faceva? Aveva deciso, rispetto al meccanismo di produzione utilizzato fino allora, durante la prima rivoluzione industriale sostanzialmente, di innovarla, semplificando i movimenti, introducendo la catena di montaggio, semplificando i movimenti, per cui l'operaio avvitava i bulloni, il taylorismo, Taylor è il teorico della semplificazione dei movimenti nella produzione, e contemporaneamente dando salari più alti, cioè consentendo agli operai che lavoravano alla produzione della Ford Modello T di comprare la macchina, aumentando quindi il mercato. Aveva fatto una scelta di questo tipo. Noi diciamo che viviamo in una società post-fordista perché pur essendo venuto meno il taylorismo, cioè non si usa più la catena di montaggio come meccanismo di produzione, non c'è più la semplificazione dei movimenti, si usa una produzione di tipo cibernetico diverso, oggi poi l'industria manifatturiera è stata spostata in altri paesi, tipo la Cina, tipo il Vietnam, tipo i paesi asiatici, le produzioni ad alta intensità di lavoro in paesi dove ci sono, però diciamo è stata eliminata la parte della produzione, per quello si chiama post-fordista, però contemporaneamente è stato mantenuto uno degli aspetti, cioè il fatto che il lavoratore potesse comprare e usufruire del frutto del proprio lavoro, cioè il lavoratore dipendente aveva un relativo benessere. Oggi, con questa crisi, il paradigma, cioè il modello utilizzato, diciamo che c'è un cambiamento di paradigma, è il modo che utilizzano le persone colte, io non lo sono, per dire che sta cambiando il modello di produzione. Oggi chi lavora non può più comprare il frutto del proprio lavoro, cioè è finita la società post-fordista. Capiamo anche questo. Questa crisi determina questo cambiamento. Se non lo capiamo, se non riusciamo rispetto a quello a modificare il nostro agire anche politico, sindacale, oggi il sindacato non si può più muovere come si muoveva con la vecchia struttura fordista di lavoro. Faccio lo sciopero, chiedo più soldi, blocco la produzione, devo fare altre cose. Oggi un'organizzazione politica deve ragionare in altri termini. Oggi il modello, il paradigma è cambiato e rispetto a quello anche dobbiamo modificare il nostro modo di agire. Un'altra suggestione che fornisco, agganciandomi alla cosa che diceva, però secondo me il succo del discorso oggi della crisi, al di là dell'averla compresa e di capire quali sono i meccanismi della finanziarizzazione dell'economia, della concentrazione del potere in poche mani, perché poi ripeto, sono pochi quelli che oggi decidono delle sorti del mondo, e anche questo aspetto che noi nel nostro piccolo, nelle nostre realtà, dobbiamo modificare il nostro modo di fare le cose rispetto a alcuni metodi che utilizzavamo prima. Ci sono domande, questioni, suggestioni, perplessità? Voglio ricordare che comunque siamo in diretta su Transizione di Fase e che tutto quello che sarà detto stasera, insomma, poi è possibile a riascoltare su un podcast, su un link fatto, insomma, ringraziando a Transizione di Fase e chi stasera cura la diretta, appunto. Fra parentesi, voglio ricordare che si sta preparando una bella pasta al sugo. Vorrei sapere, insomma, vorremmo sapere chi rimane a cena. Alziamo la manina, chi rimane a cena? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vabbè, più o meno, insomma, sì. La facciamo fare tutta, dai, che avanza, poi ci sarà qualcun altro che rimane. Niente, proseguendo insomma su questa chiacchierata, domande, riflessioni, suggestioni, insomma, vai. No, vieni qua, perché sennò non sei immortalato su Transizione di Fase. Siamo schiavi della tecnologia. Siamo schiavi della tecnologia. Mamma mia. No, più che altro una riflessione che, oltre ovviamente a quello che si è annunciato, quindi che c'è comunque chi dietro le quinte, ma quinte molto sottili, perché insomma non è che c'è un muro dietro, pilota tutta la questione, poi c'è anche un qualche cosa di più locale, ovviamente sia a livello nazionale, subnazionale, sovranazionale, che in qualche modo contribuisce sia all'inasprimento di quello che è il debito, che poi andrebbe anche affrontato, magari sarebbe bello discuterne in un momento, cos'è il debito realmente, ma è la questione della clientela, Tu giustamente hai fatto vedere tipo i 168 lince che lo Stato italiano ha comprato. Ebbene, 168 lince, ora senza uscire tanto nei tecnicismi, ma sta lince probabilmente l'ha progettato quello che ha progettato la Duna, quella si accappottava quando in qualche modo parcheggiavi in retromarcia, il lince uguale, morti in Afghanistan perché si sono ribaltati con lince, bombe, non bombe, cose del genere, quello è un mezzo che fa schifo. Allora che cosa succede? Perché? Perché è stato fatto in qualche modo una, è stato chiesto un appalto alla Iveco di fare un enorme... Sì, però la realizzazione poi è stata dell'Iveco, di fare tutta sto bordello di mezzi che sono praticamente delle duna, cioè sono delle robe allucinanti, cioè tu mandi dei militari, dei poveri cristi, magari che sono anche nostri conterranei del sud, che qua lavoro non ce n'è, l'unica strada è buttarsi dentro alla carriera militare, farsi due missioni, beccarsi 50, 60, 70 mila euro e cercare di campare, li metti su dei mezzi che fanno schifo. Succedono i guai, lo stesso la Russia ha preso e ha firmato un decreto di cannibalizzazione di due mezzi che hanno posti sotto sequestro. Cioè, alla fine, chi in qualche modo sta guadagnando dietro a sta roba? Al di là quindi delle eminenze grigie, tutta sta roba, Standard & Poor's piuttosto che Goldman Sachs, eccetera, eccetera. Però poi vediamo come nell'economia un po' più spicciola, no? C'è tutto un sistema di clientele che non fa altro che aumentare a dismisura quelle che sono i gap, i debiti e quant'altro. Ma ad esempio i due sommergibili che dietro cui ci sta la ThyssenKrupp, che fai? Bene, tu devi pagare tot perché te si sono trasformati, sei operai in torce umane, e vabbè, purtroppo era un atto dovuto, però io ti ricompenso pagandoti il quadruplo e dandoti la commessa ai due sommergibili. Alla fine comunque il sistema clientelare che noi qua al sud conosciamo come una prassi operativa quotidiana diventa in qualche modo un agire politico, finanziario ed economico che già parte da un sistema malato che è quello appunto di poche persone che governano e hanno le mani dentro a tutte le leve di comando, e che in qualche modo quello che già fa schifo lo si presenta come un moltiplicatore. In qualche modo tutto quello che è la clientela, vediamo sempre qua dalle nostre parti, per non parlare anche insomma da voi a Roma, ad esempio il sistema sanitario, cioè noi qua abbiamo 80 milioni di debito, là magari non lo so, sarà qualcosa un po' più grande. Che cos'è? Sempre clientela, sempre governance, sempre in qualche modo un modo per mantenere una sorta di potere attraverso le clientele, gli appalti, le creste, tutto sulle forniture e quant'altro. Quindi diciamo che se già c'è un sistema che di suo mira ad accentrare ingenti capitali nelle mani di poche persone, poi quelli che hanno un po' di libertà d'azione non fanno altro che ingrandire e inasprire quello che è un problema che già insomma si è visto, è qualcosa di assurdo. Quindi anche la riflessione, quindi al di là di quello che è un sistema, c'è un sottosistema che inasprisce quotidianamente con una prassi operativa, appunto un modus operandi quotidiano, ed è quello che magari ci ritorna addosso e lo vediamo nel nostro agire quotidiano, lo vediamo quotidianamente e che paghiamo, perché ovviamente se un'azienda investe così e aspetta che magari venga tutti questi costi vengano in qualche modo poi ripagati dallo Stato, e alla fine poi su chi si rifà? Si rifà magari sul comparto, ad esempio, automobilistico normale, e quindi ti ricarica tutta sta roba a te, povero stronzo, che magari sulla con appunto di schifo ci cammini dalla mattina alla sera perché ci lavori. Ovviamente non tocca il miliardario che piglia la macchina due volte al giorno giusto per andare a essere così a farsi un giro. Quindi in qualche modo, oltre a questo, il sistema delle clientele è un qualche cosa che ti ritorna addosso in maniera forse più pesante rispetto a quello che abbiamo visto prima. Questo insomma voleva essere un attimino uno spunto di riflessione. Aspetta, dove vai? Fermati qua, perché conosco bene la persona che qui mi sta di fronte, è un mio fratello di battaglia, di lotta, e vorrei che riportassi in qualche modo le riflessioni e le azioni, perché per quanto mi riguarda insomma non esiste pensiero senza azione, perché non sono un masturbatore insomma, e quello che un po' andiamo dicendo, che sarà la prossima campagna mo basta della rete difesa del territorio, sulla questione infrastrutture ed energia, è quello che riguarda anche un po' la discussione di stasera, cioè l'accrescimento del PIL eccetera, perché noi su questa cosa delle strutture, infrastrutture, energie abbiamo una visione che è un po' anche, diciamocelo, classista, Cioè, che mi vengono a dire? La Salerno-Reggio Calabria porta dei posti di lavoro. Sti cazzi. Perché quelli che ci lavorano, quantunque hanno un cazzo di contratto, sono pagati a nero, sotto busta, mille ricatti. Cioè, dove non c'è comunque quel famoso controllo dal basso, perché i sindacati si sono svenduti anche le mutande loro e della loro madre e nonna, purtroppo oggi tu c'hai che anche chi c'ha quel famoso contratto in realtà è ricattato. Quindi vorrei che tu, magistralmente, con la capo tua Catini, mi facessi un collegamento fra l'accrescimento del PIL e l'immiserimento di comunque che chi contribuisce all'accrescimento di quel cazzo di PIL, ovvero sia arricchisce le imprese e non solo le imprese, soprattutto chi poi presta il capitale alle imprese. Magari la seconda parte la lasciamo a Francesco, sì, che è più sul finanziario, sull'economista anarchico, diciamo. Te invece magari mi puoi raccontare, ci puoi raccontare quello che sta succedendo in Calabria per quanto riguarda le infrastrutture, i miliardi spesi, i rigassificatori, centrali, autostrade e chi ne ha più ne mette, insomma. Beh, il ragionamento segue comunque quello che è stato appena comunque discusso, cioè il meccanismo non è diverso, comunque alla base c'è sempre quello lì che si socializza in qualche modo il debito e si capitalizza nelle mani di poche persone tutto il reddito. Qui a neanche 100 chilometri è in progetto un rigassificatore, un qualche cosa di mega galattico, si parla di qualcosa tra i 12 e i 14 miliardi di metri cubi di gas rigassificato all'anno, che uno dice sì, abbiamo la crisi energetica, il gelo, il disgelo, tutta sta roba qua, i metanodotti che vanno, la Russia che ci chiude i rubinetti, abbiamo bisogno di metano, perché no? Perché parte da Gioia Tauro, arriva a Sinsfu e arriva in Norvegia, quindi in Italia non arriva neanche una molecola di questo metano. E sì, c'è una serie di posti di lavoro che si apriranno, no, perché i posti di lavoro che in qualche modo si paventano sono le unità lavorative necessarie totali per realizzare il manufatto. Cioè, se io ho 10 persone che mi lavorano per 200 giorni l'anno, 200 per 10 sono 2000 unità lavorative annue, e con sto cambio di dati ti dicono che danno 2000 posti di lavoro. No, sono 10 persone che lavorano per 200 giorni l'anno, quindi già questa è una presa per i fondelli mostruosa. Stessa roba per il ponte, 46.000 posti di lavoro, no, 46.000 unità lavorative annue o per periodo di lavoro impiegato. 46.000 saranno, non lo so, 300-400 squadre di 10 persone, eccetera eccetera. Quindi quello che in qualche modo si sta cercando di fare, soprattutto in questa nostra terra devastata, non è altro di avere un banco di lavoro dove si può menare con la mazza, il martello, tanto anche se si rovina non fa niente, produco gioielli, ma che ovviamente non li vado a vendere al mio vicino di casa, li vado a vendere altrove. Quindi io rovino tutto quello che ho attorno, lo usuro, lo demolisco, ci faccio le saldature, quello che è, rovino tutto il mio banco di lavoro, tanto poi so che appena venderò tutto quello che ho prodotto me ne compro un altro e pace amen. Magari la prossima volta, anziché usare la Calabria, useranno la Sicilia piuttosto che la Puglia o altre zone disastrate. Ma in realtà quello che sta succedendo è questo qui, cioè si parla di crescita di PIL, ma se già abbiamo visto che il PIL è un dato, è in qualche modo è un coefficiente che rispecchia poco la realtà, perché se io sto incolonnato in macchina col motore acceso produco PIL, se lo spengo non produco più PIL. Se me ne vado in giro con i miei amici, compagni, eccetera eccetera, a farmi una scampagnata a piedi, non produco PIL. Se invece sto tipo bloccato da qualche parte o sto con la televisione accesa mentre mi faccio la doccia, produco PIL. No, quindi in qualche modo è un dato che è molto aleatorio e ballerino. Stessa cosa, perché comunque la corrente va, i banner corrono, eccetera eccetera. E quindi quello che avviene da ste parti che cos'è? Che noi siamo una regione che sottoutilizza l'energia prodotta, perché ne esportiamo, questo è un dato abbastanza vecchio di 4 anni fa, il 42%, probabilmente oggi ne esportiamo anche di più, e in termini di paragone esportiamo molto di più di molte altre regioni. Cioè noi In realtà siamo una regione virtuosa per quello che riguarda l'esportazione di energia. Allora, che senso ha produrne altra? Ovviamente non resta in loco. È un qualche cosa che viene prodotta qua perché i rischi, tutto quello che è l'elettrosmog, l'inquinamento, l'impatto ambientale, ovviamente ce lo prendiamo noi, poveri, stolti, gente che non alza mai la testa, perché siamo gente che possiamo essere presa per il naso la mattina e la sera, perché arriva il politicante di turno e ti dice votami e ti sistemo tuo figlio, tuo nipote, eccetera eccetera. Noi ancora ci crediamo, sono 60 anni che crediamo a sta marea di fregnacce, e quindi siamo una provincia, siamo una regione, siamo quindi la provincia dell'impero, in qualche modo, che può essere tranquillamente depauperata, perché tanto la gente non dirà mai nulla. Quindi ci piazzano le turbogas, ci piazzano i rigassificatori, ci piazzano gli inceneritori, ci piazzano la qualunque, la centrale a carbone e tutto quanto. Grossa parte di quello che è l'introito viene pagato dallo Stato, perché tutto quello che è energia rinnovabile è assimilata, rientra nei CIP6, e quindi è tutto denaro che noi paghiamo nella bolletta. Cioè io sto pagando giorno dopo giorno il fatto che tra 10 anni avrò il cancro, quindi io mi sto pagando questo bambino che mi cresce dentro, io mi pago il mio cancro, e ovviamente poi quando sarò malato, tra 10 anni la sanità nazionale probabilmente sarà ridotta al lumicino, mi sbattono davanti a una clinica privata, io non avrò i soldi per pagarlo, ma se io potessi capitalizzare tutto quello che ho speso per avere questo cancro, probabilmente vorrei curarmi. Questo è il paradosso allucinante. Quindi noi siamo terra di conquiste e in qualche modo produciamo PIL, ma produciamo PIL che non viene neanche speso in Italia, ma viene portato altrove, e via con gli elettrodotti, via con i gasdotti e tutta sta roba qua. Quello che stiamo cercando di portare avanti come rete di difesa del territorio è un punto centrale, il lavoro. Non fatevi prendere per il naso, perché questo lavoro che vi propongono è un lavoro che, se va bene, sarà di qualche decina o centinaia di persone per qualche periodo, per costruire, cioè il tempo di costruire il rigassificatore, il tempo di ricostruire la centrale a carbone. Dopodiché sta roba, con l'automatizzazione di cui disponiamo al 2012, andrà avanti con poche persone, perché sarà tutto automatizzato. Quindi saranno 4-5 personaggi, tra virgolette, più fortunati degli altri, che lavoreranno dentro una fabbrica di morte, mentre gli altri semplicemente si respireranno tutto quello che arriva da sta roba. Quindi vediamo come il lavoro in qualche modo è centrale rispetto a tutta una serie di discorsi. E ci propongono ancora tutta un'altra serie di questioni, e ci propongono ancora la TAV o i trasporti allucinanti, eccetera eccetera. Noi sono anni che diciamo, ma anziché avere un'autostrada che è quello che è ed è ingolfata da TIR, fate viaggiare tutto su rotaia. No, perché? Ma sul mare sarebbe già un'utopia, quantomeno su rotaia, come avveniva 15 anni fa. No, perché? Perché siccome dal lato ionico la rotaia è una e ci devono passare i treni passeggeri a lunga e media percorrenza, perché sono quelli che portano più soldi, perché quelli pendolari purtroppo non portano molta pecunia, quindi li tagliano, e dal lato tirrenico, con tutto quello che c'è, devono passare i vari Eurostar che corrono quanto un espresso del 15-18, che però te lo fanno pagare l'inferno, e allora il treno la merce su rotaia non deve andare. Poi ti dicono, no, parlando di TAV, ti dicono che tutto quello che è il comparto merci, che si implementerà con i vari corridoi, eccetera, eccetera. Poi ti arriva Trenitalia che ti dice no, ma io, l'interesse mio è il trasporto passeggeri, no? Non quello su merce. E dice no, quindi puntiamo sull'alta velocità. Unica cosa che ancora nessuno ha saputo spiegare è che, se andate a chiedere ai francesi dopo il traforo cosa succede, ti dico no, noi l'alta velocità non ce l'abbiamo. E come, quindi facciamo un traforo per l'alta velocità che appena finisce l'alta velocità non c'è più. Stessa roba da noi, cioè ponte sullo stretto, sì, no, perché le merci devono viaggiare, il personale deve viaggiare, la gente deve viaggiare, il treno sul ponte non ci passa, perché già è un miracolo che sta in piedi per i fatti suoi, il treno non ci passa. Così come il treno ad alta velocità non può passare in molti tratti costieri tirrenici, perché sono vecchi, perché sono decrepiti, perché la manutenzione non ci va, perché c'è stata una frana e ancora non l'hanno ripristinato, però ci passa il pendolino, va 2 all'ora, però è sempre un pendolino, e quindi lo paghi 60 euro per fare 20 chilometri, E questa è l'ennesima truffa. E ci truffano sul trasporto merci, ci truffano sull'energia, e c'è un deficit energetico in Italia perché c'è stato il blackout 6 anni fa. Vai a spiegare alla gente che il blackout non era perché noi eravamo in deficit, ma perché era quel tratto di confine tra Francia e Italia dove praticamente c'è stato un attimino di casino e quindi poi c'è stato un tipo effetto colpo d'ariete e praticamente a macchia di leopardo si sono spente varie città. Ma non è perché noi stiamo in deficit totalmente, perché comunque abbiamo regioni che producono di più e regioni che assorbono di più. È un pochettino quello il discorso che si faceva prima, no? Una cosa a costo zero, la Calabria esporta il 42%, magari la Lombardia ha bisogno del 42% in più, però più o meno stiamo in pareggio. Però perché l'energia devo produrre io da qua e portarla con gli elettrodotti fino in Lombardia dove la consumano e io mi devo prendere il cancro e quelli si pigliano la pecunia? Cioè è tutta sta roba, il sud, terra di conquista, è questa qui. E giorno dopo giorno non vediamo altro che contraddizioni. E allora abbiamo il nord che si vuole staccare perché è un qualche cosa che va avanti ed è proiettato nel futuro e verso la Mitteleuropa, mentre noi siamo poveri cristi che non ci abbiamo niente, però sono 10 anni, 20 anni, 30 anni che ci pigliamo tutti gli scarti industriali della produzione industriale del Triveneto, del nord Italia, e ce li vengono a seppellire qua, e noi continuiamo a morire, e loro dicono che comunque noi non abbiamo voce in capitolo perché noi siamo una massa di fannulloni. Cioè, sono tutta una serie di contraddizioni, tutta una serie di assurdità, che però ce li troviamo dentro ai programmi politici dei partiti, ce li troviamo dentro ai programmi economici di, in qualche modo, futuribilità economica nazionale e quant'altro. E noi continuiamo a subire. Quello che come rete di difesa del territorio vogliamo denunciare, vogliamo portare avanti, al di là del motto «mo basta», è il fatto che bisogna cominciare a ragionare per quello che sono le reali esigenze dei territori e le reali esigenze di un paese. Noi non abbiamo bisogno di mega centrali dove in qualche modo l'energia viene prodotta in maniera massiccia. Avremo bisogno di una serie di produzioni delocalizzate, di una serie di... cioè il piccolo pannello solare, non i campi eolici che stanno devastando 3/4 delle nostre colline, ma l'eolico sul tuo tetto, l'eolico nel tuo prato e tutta quest'altra serie di cose. Però siccome costano poco, siccome producono e siccome in qualche modo ti emancipano da una serie di logiche, queste non vanno bene. E allora ci abbiamo sempre le solite multinazionali, sempre i soliti personaggi che vengono da fuori, dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Francia, che vengono qui, fanno gli accordi con i signorotti locali, i baroni o comunque i feudatari, perché noi stiamo ancora a livello medievale, perché ci abbiamo ancora i feudatari, i proprietari terrieri, si accordano, prendono, spazzano via interi paesi, spazzano via interi crinali collinari, piantano campi eolici, piantano grosse centrali solari, dopodiché se ne vanno e non aspettano altro che ogni mese gli venga accreditato il loro obolo. Questo è quello che succede, cioè noi siamo una vacca con le tette al vento e chiunque arriva ci munge, punto. Cioè la Calabria oggi è questa qui, un'enorme vacca con le tette al vento, punto. Cioè noi siamo sfruttati dai nostri connazionali, siamo sfruttati da quelli che vengono da fuori, siamo sfruttati dalle multinazionali, stiamo in un circuito globale allucinante dove dal Texas vanno a smontare impianti industriali vecchi e decrepiti e ce li mandano magari in Sicilia, ce li mandano dalle nostre parti, abbiamo navi affondate nel Mediterraneo con scarti industriali che vengono dalla Bielorussia piuttosto che dall'America, e noi siamo praticamente la pattumiera mondiale e siamo una sorta di, appunto, dalle nostre parti si dice tipo curriva arriva se strica, cioè nel senso chiunque arriva ci piscia e se ne va. Questo è quello che in realtà siamo. Come rete di difesa del territorio cerchiamo e stiamo tentando da qualche anno di mettere in evidenza tutta una serie di contraddizioni sia economiche, finanziarie e lavorative, e in qualche modo cerchiamo di far aprire gli occhi alle persone, creare una coscienza e dire bene, tutto quello che ti stanno proponendo, quello che ti hanno proposto e quello che ti proporranno è semplicemente sempre un aspetto, un colore diverso del mega cerriolo che ti va sempre in quel posto. L'unico modo è che tu, il tuo territorio, riesca a gestirlo con le tue mani. Se tu vuoi fare l'agricoltore, fallo, ma non stare a sentire quello che ti dicono gli altri. L'unico modo è che tu diventi veramente, cioè riesci di nuovo a mettere le mani sulla tua terra e a difendertela. Tutto quello che viene da fuori, tutto il progresso che ti stanno proponendo, ti hanno proposto con la Cassa del Mezzogiorno e ti proporranno chissà con quale altro piano di sviluppo, non è altro che morte, morte e morte. Ti propongono morte e ti dilazionano il fatto che tu stai pagando una pigione sulla tua sofferenza futura e sulla tua morte. Ripeto, noi stiamo pagando in bolletta il 7% per il cancro che avremo tra 10 anni. Questo è quello che noi abbiamo e quello che ci stanno proponendo. E l'unica cosa da fare è fermi tutti, fermo macchine, il chip 6 non lo passo, il chip 6 non lo pago più, la bolletta dell'acqua ti blocco io, non la pago più, perché altrimenti gliela sto dando alle multinazionali francesi e quant'altro. Stop, fermo macchine e poi ragioniamo. Forse ho fatta pure un po' troppo lunga, ripasso la parola a Oreste. Grazie. E questo Rayami, un fratello di lotta che ha avuto il piacere di conoscere in questa terra calabra. Francesco, vuoi aggiungere un qualche cosa? Due cose su di tipo più tecnico che politico, però. Allora, dal punto di vista tecnico segnalo una questione. Uno dei motivi per cui in Italia c'è stata questa rincorsa alle grosse infrastrutture, la TAV, il ponte sullo stretto e altre cose, è stato il fatto che quando prima citavo Maastricht, il parametro del 3% del deficit, questo non riguardava gli investimenti in conto capitale. Cioè se uno Stato investe in infrastrutture può investire più del 3%. Questo è il motivo per cui per molti anni c'è stato questo atteggiamento di voler fare a tutti i costi una serie di infrastrutture sostanzialmente inutili e dannose come la TAV, o perlomeno deleterie per il territorio, o fantasiose come il ponte sullo stretto di Messina. Tutti sanno che non verrà mai fatto, le spese sono spese a fondo perduto. Questo tipo di meccanismo, qui arrivo all'aspetto più politico della cosa, si è modificato. È stato firmato recentemente un nuovo trattato, quello che impone il bilancio il pareggio di bilancio del deficit, che non prevede l'eccezione per le spese infrastrutturali. Questo significa che tutta una serie, in realtà il meccanismo è un pochino più complicato, quelle già avviate possono continuare, però non possono esserne avviate nuove. Questo comporta una modifica da parte della gestione dei finanziamenti su queste cose. Capiamolo, perché in prospettiva questo si modificherà. C'è un aspetto dell'intervento fatto prima che però va rimarcato, quello delle clientele. Cioè oggi la miseria stanno cercando di dividerla come al solito, cioè non ho tanti soldi, quei pochi li do ai pochi amici. Che abbiamo però un meccanismo che sta finendo, cioè fino a oggi il potere ha basato l'esercizio del proprio dominio sul consenso. Io te do i soldi, te do la casa, te do il lavoro a tuo figlio, do questo, do quell'altro. Sono finiti i soldi. Cioè oggi, e lo dimostrano alcuni atteggiamenti, vedi gli arresti in Valsusa, vedi altro, il potere sta basando l'esercizio del proprio dominio dal discorso del consenso al discorso dell'autorità. Chi viola o non rispetta un ordine emanato dall'autorità viene represso. Questa è la differenza sostanziale che da qui in avanti ci rappresenterà le istanze di conflitto. Teniamolo presente, cioè ovviamente combattiamo le clientele, gli sprechi, gli approcci che ci sono stati, che ci sono e che necessariamente ci saranno, perché comunque dei margini di distribuzione della miseria ci sono. Però contemporaneamente teniamo presente che mentre prima l'approccio che c'era era un approccio per cui mi rompi troppo le scatole, compro due o tre dei tuoi garantendogli il lavoro fisso, garantendogli quello o quell'altro, e a te ti levo di mezzo anche se sei incorruttibile, ti faccio terra bruciata intorno, da oggi in avanti, diciamo in prospettiva, essendo finiti i soldi, è un meccanismo che potranno utilizzare sempre di meno. Il che significa, per riallacciarmi al discorso che facevamo prima, che abbiamo necessità di organizzarci, proprio perché su un esercizio del potere, del dominio basato solo sull'autorità, o tu sei in condizioni di contrapporre delle tue capacità organizzative, oppure vai al massacro sociale e soggettivo, capiamolo. L'ultimo aspetto era un aspetto interessante che era stato sollevato, cioè il fatto della produzione dell'energia. Non è un aspetto di poco conto, nel senso che uno degli elementi fondamentali dei processi di produzione oggi in corso è proprio l'aspetto dell'energia, il petrolio piuttosto che non la centrale elettrica, piuttosto che non altro. In Italia hanno provato, e gli si sono ritorte le pive nel sacco, a riproporre il nucleare un anno fa, grazie a Fukushima. E purtroppo per la perdita in vite umane e in qualità della vita che ha avuto la popolazione giapponese, c'è stato da parte della maggior parte degli italiani la consapevolezza che il nucleare la puoi raccontare come te pare, non è il problema di Chernobyl perché i sovietici erano arretrati, e dove stai stai, il nucleare ti determina dei guasti che tu non risolvi. Per cui c'è stato un approccio di questo tipo. Contemporaneamente però io sono uno di quelli che si è fatto le battaglie contro le centrali nucleari negli anni Ottanta. Noi combattevamo contro le centrali nucleari non soltanto per il rischio che c'era, ma anche perché erano oggettivamente inautogestibili, nel senso che non ha senso pensare che ci possa essere un impianto di produzione per 20 milioni di persone. Non peraltro perché hai un conflitto di interessi tra te che subisci i guasti, le diseconomie, come si dice, della produzione, e me che ne beneficio del fatto che tu mi dai energia a basso costo. Il meccanismo da utilizzare è quello che rivendichiamo, all'epoca e che seguiamo a rivendicare, sono le unità minime funzionali di produzione, nel senso che è evidente che hai delle economie di scala producendo energia, ma è altrettanto evidente che è molta più l'energia che sprechi nel momento in cui tu devi mettere d'accordo un condominio per vecchia tavola accesa tutto il giorno, quello che lavorava l'accesa al riscaldamento la mattina, la sera, eccetera, rispetto a una situazione, per esempio, parlo di riscaldamenti e riscaldamenti autonomi. Nel momento in cui tu riesci a realizzare un'unità minima, per cui dico io produco energia e cerco di massimizzare il benessere di ognuno, dove ognuno fa delle cose consapevole del rischio e della diseconomia che subisce dall'inquinamento, se l'economia la produce in un modo, per esempio con l'eolico, che è uno dei metodi vantaggi alternativi, c'è il rumore. Se io metto una pala eolica e siamo 5, cerchiamo di ridurne l'utilizzo all'effettivo coso, il solare occupa una parte del territorio, il gas piuttosto che non il petrolio, vado per cose, è chiaro che ho un inquinamento da fumi, eccetera. Nel momento in cui noi riusciamo a gestircelo e autogestircelo collettivamente, è chiaro che ne riduciamo l'utilizzo e contemporaneamente l'impatto ambientale. Però quello è il problema, cioè cercare di ricondurre, invece di fare i mega impianti, è una scelta strategica. Lui accennava prima piccolo e bello, e non è piccolo e bello, piccolo e funzionale. È funzionale perché serve, era uno slogan utilizzato dagli svedesi negli anni 70 per dire: guardate che, perché fino a quel momento c'era la tendenza al gigantismo della produzione, guardate che non necessariamente il gigantismo comporta delle economie di scala, perché ci sono delle diseconomie di scala, cioè si riduce il vantaggio in una situazione del genere. Da questa teoria poi è venuto fuori il discorso del cercare di garantire un rapporto tra chi utilizza un bene e chi lo produce. Noi da questo abbiamo tirato fuori la teorizzazione delle unità minime funzionali, cioè del fatto di quel livello di produzione che garantisce un controllo diretto da parte del consumatore e oltretutto che chi utilizza una cosa ne subisse anche gli effetti negativi, per cui poi potesse contemperare gli effetti positivi e negativi nella gestione della stessa. Secondo me questo tipo di approccio, che fin dagli anni 70 gli anarchici hanno rispetto a meccanismi di produzione e di consumo, è un approccio che oggi più che mai si rivela valido, nel senso che è quello che in una situazione del genere, come molte altre cose per cui gli anarchici hanno avuto intuizioni, oggi c'è la prova provata che è probabilmente l'unica cosa che ci riesce a garantire dal fatto, per cui tu vuoi una centrale nucleare, nel momento in cui tu raccogli 1000 persone che sono quelle che vengono colpite eventualmente dalle reazioni, solo quelle, ma in realtà non è così, noi sappiamo per questo il nucleare non va bene, però supponiamo una centrale a carbone per farla, per dire un altro impianto inquinante, cioè quelli che, su cui ricadono i fumi dell'impianto a carbone sono anche gli stessi che usufruiscono l'energia, è un problema. Cioè io anarchico sono per la libertà di tutti, anche per la libertà di un altro di scegliere una via diversa, non è un problema, io non impongo nulla a nessuno, però decido, voglio, pretendo di decidere io quello che voglio avere, quello che voglio utilizzare e quello che voglio subire come diseconomia. La differenza sostanzialmente è quella. Franco, naturalmente non il microfono. Franco, scusa, mi dicono che siamo in streaming, quindi devi parlare, se no il radio non si sente. Noi la battaglia contro l'elettrodotto l'abbiamo persa perché non si è avuta la capacità di passare, fare un salto di qualità su questo. Le forze che avevamo erano forze molto limitate ed erano e facevano parte a quella frangia alla quale io idealmente mi collego, cioè dall'ambientalismo militante, ma più che ambientalismo militante dei comitati, perché io ho sempre rifiutato, l'ho sempre detto, che il termine ambientalista a me mi sta un po' stretto, perché se ambientalista è l'ambiente e altri che sono su tutt'altre posizioni, su posizioni consociative, oppure sono per i termovalorizzatori o prendendo soldi dalla Confindustria, e allora è chiaro che c'è un abisso. Fin dall'inizio abbiamo cercato qui in Calabria con i compagni del cartel, il gruppo, alcuni gruppi dei comitati a Castrovilla e in altre zone, di fare un discorso, cercare di fare il salto di qualità, cioè di creare un minimo di organizzazione su questo. E sul territorio sono state prodotte anche lotte abbastanza significative, perché in provincia di Cosenza i termovalorizzatori non sono stati fatti, sono state fatte manifestazioni a Castrovillari con 15-16 mila persone, con i trattori in piazza a Castrovillari, abbiamo scongiurato l'installazione del termovalorizzatore sul Savuto, sulla zona, sull'alto Tirreno. Allora la storia la dobbiamo, io vorrei capire perché, come mai alcune, una serie di compagni di comitati dovrebbero aderire alla rete Franco Nistico difesa del territorio, alla quale ho contribuito pure io alla nascita e dalla quale sono uscito un mese e mezzo fa, motivandola anche la mia fuoriuscita, ma senza nessun tipo di recriminazione, perché sono altri, i discorsi sono altri. Cioè il problema reale è che purtroppo ancora una volta noi facciamo lotte difensive e non si ha la capacità e l'intuizione a livello politico di passare su una fase offensiva. E questo mi sembra molto, molto riduttivo. Al di là di alcuni fatti particolari, perché la rete Franco Nistico è nata con un netto ritardo dopo la manifestazione, ripeto, la manifestazione di 20.000 persone da Mandea contro la nave dei veleni e sul discorso dell'inquinamento della nave dei veleni, è nata con un anno di ritardo. E all'interno della rete sono scattati dei meccanismi a livello di delega indiretta. Allora, i motivi per un coinvolgimento reale, per creare un minimo di lotte che aggregano la gente, ci fanno svegliare la gente, la popolazione, perché se no continuiamo a morderci la coda e fare battaglie minoritarie, perché questo è il discorso nudo e crudo, questo è il discorso, perché se non si ha la capacità di passare e fare il salto a livello organizzativo, anche il salto di qualità, che è essenziale, perché, cioè, tre anni fa con il decreto Lunardi hanno annullato ogni minima garanzia che c'era a tutela, e io non sono un assertore o un difensore della legalità, paradossalmente possono fare, no, su una palude possono fare un grattacielo, perché hanno raggirato la valutazione di impatto ambientale e altre cose, quindi il discorso è chiaro, insomma c'è una stretta repressiva a tutti i livelli, sia a livello di da parte dello Stato, delle forze dell'ordine, quindi militarizzano il territorio, vedi a Notav e altre cose, e contemporaneamente vengono cancellate ogni spazio di mediazione a livello istituzionale. Quindi un problema a livello organizzativo, per chi crede e vuole rilanciare le lotte sociali e la lotta ambientale, deve passare su un livello diverso, su un livello completamente diverso, perché se no ci mordiamo, continuiamo a morderci la coda. Cioè, è un discorso, io lo dico con molta nudo, con molta crudezza, è un dato di fatto reale. Due anni fa si è cercato a livello nazionale, al di là della diversificazione ideologica, di creare e di rilanciare, con tutte le situazioni che c'erano a livello di movimento, Notav, no gassificatore, a livello nazionale, di creare il patto di mutuo soccorso, cioè tra i vari gruppi. È scattato, cioè, un discorso a livello politico, che alcuni gruppi di affinità a livello politico volevano mettere i paletti. Alcune realtà ci sono, perché siccome siamo tutti adulti vaccinati si sono tirati indietro. Allora il problema si pone. Sì, prezioso l'intervento di Franco, fermo restando mi voglio differenziare su di lui, perché nella rete di difesa del territorio, in quei due anni che dice Franco in cui siamo stati fermi, c'era qualcuno che rompeva i coglioni per dire tirate fuori la lista delle persone iscritte per riuscire a mandare avanti i lavori, ed era evidentemente un anarchico militante, insomma. E chi invece aveva in mano le liste era qualche residuo di Rifondazione, con cui abbiamo fatto i conti con le azioni dirette, a cominciare da quella di Pianopoli. Una delle cose, insomma, che siamo detti questa sera è che è finito il matrimonio fra la democrazia borghese, che garantiva, grazie al fordismo, un qualche briciolo di reddito alle società civile cosiddetta, e questo matrimonio finito, e non è soltanto successo, insomma, il 15 ottobre o il 14 dicembre dell'anno scorso, ma continua ancora con la repressione, insomma, che si è avuta sulla questione del NOTAV, parlando appunto di ambiente, di PIL e quant'altro, e vediamo quali sono stati gli sviluppi di questa giornata oggi sul NOTAV. Ci sono alcune notizie dalla manifestazione NOTAV, parlando proprio di rete difesa del territorio, ricollegandoci anche a quella che è la lotta per la difesa del territorio nella Val di Susa. Ricordiamo quello che è accaduto brevemente, sono notizie ancora abbastanza frammentarie, ma sappiamo dalla rete che a seguito della manifestazione, che è stata comunque del tutto pacifica, ci sono stati degli scontri nella stazione di Torino, ovvero i NOTAV stavano salendo sul treno, a quanto ci è dato capire, e a un certo punto le forze dell'ordine hanno cominciato la carica e alcune persone, insomma, sono rimasti accerchiati, NOTAV pare, e quindi c'è stata questa carica senza motivo a Porta Nuova a Torino. E ora stiamo leggendo da Twitter in realtà che alcuni sms informano che le persone che mancavano all'appello sul treno sono state alla fine rilasciate, e quindi ora pare che la situazione, da quello che riusciamo a capire, comunque è rientrata. A ogni modo, massima solidarietà chiaramente a quello che è accaduto, perché non è possibile continuare a manifestare per i diritti di una terra, per i propri diritti, per il diritto all'esistenza e alla autodeterminazione dei territori, oltre che delle proprie vite, e trovarsi sempre lì a dover fare i conti con le cariche della polizia. Quindi, se avremo altri aggiornamenti, come speriamo, vi faremo sapere. A ogni modo, l'ultima cosa, leggiamo insomma di queste manganellate in testa e alle spalle alle proprie manifestanti che cercavano di salire sul treno per ritornare a casa. Questo sì, è quanto. Un saluto, speriamo bene, insomma, ai compagni anche qui stasera non presenti, perché sono partiti a dare la propria solidarietà non solo agli arrestati, ma ad una valle che resiste allo scempio ambientale, resiste alla falsa retorica della democrazia di destra e di sinistra, che, se anche con finti punti di vista diversi, in realtà stanno lì a spartirsi il bottino sulla salute delle persone, sul futuro delle persone. Bene, penso che sia ormai giunta l'ora di andare a chiudere questa giornata, questa serata. Ringraziamo Francesco. Se ci sono ulteriori interventi e riflessioni, fatemi un cenno. Se no, la pasta già si sta cuocendo, mettiamo un po' le bevande, le cibarie che abbiamo portato, per stare un po' insieme a discorrere e continuare a chiacchierare. Poi seguirà il concerto con musica cantautorale e di protesta, godiamoci insomma questi momenti. Francesco, vuoi concludere un po' sulle prospettive che possiamo dare noi anarchici su queste triste vicende, per un futuro magari migliore? Innanzitutto mi auguro che il pensiero va ai compagni che hanno becchiato le cariche e le manganellate in Val Susa, a cui va tutta la nostra solidarietà. Oggi noi siamo qui, ma compagni di Cosenza, di Roma, di tutte le città d'Italia sono andati in Val Susa a manifestare, e il nostro pensiero, il nostro affetto va a tutti quelli che oggi erano lì, anche se noi non c'eravamo, va tutta la nostra solidarietà militante. Ricordiamocelo, e a loro rinnoviamo l'affetto, l'abbraccio solidale e complice di tutti i compagni che sono qui. Per quanto riguarda il discorso che abbiamo fatto, è chiaro che sono suggestioni, è chiaro che sono indicazioni, è chiaro che sono idee che vengono lanciate. Come sempre capita tra noi, le idee, le suggestioni vanno elaborate nella testa di ognuno di noi. Uno non deve ragionare con la testa di un altro, deve ragionare con la propria. Uno dà dei consigli, dà delle idee, poi ognuno con la propria testa ragiona, elabora, decide, determina e agisce. E quello è l'essenza del cercare di trasformare la società e l'essenza dell'essere anarchici. Grazie a tutti, grazie a quelli che ci hanno sentito in streaming e buonasera. Arrivederci e grazie a tutti. Grazie. E la diretta di transizione di fase continua, ma in questo momento ci blocchiamo qui. Intanto, se ci saranno altre notizie provenienti dalla Val di Susa e da questi scontri che sfortunatamente abbiamo ascoltato, vi daremo notizie. Comunque continuate a seguire transizione di fase, perché fra circa un'oretta, insomma, poi lo sapete che noi da Cosenza non siamo mai molto precisi sugli orari, continueremo ad ascoltare la musica cantautoriale, musica di lotta e di protesta, proprio qui dalle officine Babilonia di Cosenza. Continuate dunque ad ascoltare Transizione di Fase.